inerente a te, diciamo, al tuo socio. Non sapevo niente, ma ho detto proprio in aria che hanno fatto questa manifestazione di vetrina, diciamo. Non lo sapevo più, io non sono fisionomista, io sono passato lì perché anche la mia moglie ha detto, ero passato un attimino a prendere i miei bambini. E quindi mi sono fermato 10 minuti, che avevo parcheggiato in doppia fila, verso le strisce, e ho visto che c'era un fattitolino che stava pitturando, facendo 10 minuti e me ne sono andato. In effetti è vero, c'era movimento fuori dal... è vero, cacchio. Però c'era anche tua figlia. Sì, appartiene a quel gruppo, ma poi sono andati tutti a cena assieme. Non so cosa abbiamo fatto perché è rientrata abbastanza tardi. Cioè, è venuta a casa, si è lavata, cambiata, poi è uscita di nuovo. Dice che erano tutti a cena, capito? Boh, cacchio, direi che l'ho riconosciuta, che ero disattento, sono credo. Sempre più distratto sto diventando qua. Vabbè, ho visto una o due volte tua figlia, poi io già lo sai che sono, non sono né fisionomista, però non è che sono il tipo che ti sta controllando. E quindi non ho memorizzato il viso, capito, di tua figlia, quindi poi anche lì sono entrato, c'erano i bambini, ho preso lì, mi sono fatto una chiacchierata con mio cognato, 10 minuti in tempo sono andato via, ho salutato e me ne sono andato, quindi non ho visto un paio di pitture, così 2 secondi e me ne sono andato, capito? E quindi fa parte di quel gruppo tua figlia? Sì, sì, è già la seconda o la terza volta che va. L'altra volta hanno fatto l'Alghero, adesso hanno fatto qua, adesso non so, forse ce n'è un'altra prima di Natale, adesso non lo so. Ok, no, mi ha detto lei che mi ha fatto il nome di dove stavano facendo questa cosa e quindi ha detto, quello è di... Ah, mi ha detto sì, mia moglie infatti ti ha visto. Va bene, non prove, tutto sotto controllo. Allora, avanti Daniele. No, scusa che riprendo io un attimino, allora io ho capito, cazzo, devi chiedere scusa a tua moglie, cazzo, scusati da parte mia, perché in effetti io adesso si stavo guardando, me lo so, ero fermo con mia cognata 10 minuti fuori, ma vabbè, belle ragazze, complimenti, e una signora mi ha detto, e quella è mia figlia, perché mi conosceva, ciao, mi ha detto, e io mi sono fermato cortesemente, no, gli ho detto, mi scusi, cioè, ma io non stavo guardando in particolare, perché io stavo guardando la vetrina, più che altro, come l'ho più lì era, quindi voglio dire, non è che stavo guardando, detto, no, mi ha detto, ma non ti preoccupare, e io non vedo, che ci ho capito, tua moglie era, cioè, immaginati che lì, vista a casa tua, una volta, l'ho vista lì e non l'ho riconosciuta, ci ho anche parlato, quindi chiedigli scusa da parte mia, perché, scusa, ma non sono fisionomista, capito, qua? Non te ne fai una colpa, putellini. Già me l'ha detto che ti ha visto, conosce anche tua moglie, non c'è problema. Abitava via Montegrappa, mia moglie abitava via Montegrappa, quindi non c'è problema. Va bene, dai, facciamo girare, Daniele, riprendi a te il microfono, io vado a vedere se riesco a sintonizzare, se riesco a sintonizzare questa RAI, giusto per i telegiornali, poi per il resto non me ne frega niente. Un secondo di bianco per me, riprendi o Daniele? Ciao, andiamo, chi c'è rimasto qua? Antonio, c'è ancora, si è spostato anche lui. Aspetta un attimo, non lo so dove è andato. Certo, allora, quello lo chiamo per lavoro, a me. Sarà andato a berso un gingerino. L'aperitivo è andato a bersi. Lui ogni tanto, lui ha necessità, capito? Di ogni tanto, che adesso tanto lo sto ascoltando, però lui ha problemi di tenne un gruppo anche, capito? Tenne un gruppo di alcolismo, quella cosa lì, capito? Ogni tanto ha necessità di andare, quando si sente scarica, andare a buttare giù un po' di benzina, se no gli passa quella. E poi si vede se come rientra bello pimpante. Ah, deve fare un po' di ricarica le batterie, deve, se no guai. E deve innaffiare il sangue, capito? E poi rientra bella ripilla, era un po' spento, non so se ti sei reso conto. E se lo vedi come entra bello pompato, Comunque che tu sei da queste parti, no? Sì, sono più o meno sì, via Monte zona lì. Ho capito, la segnale si vede che sei vicino, quasi 9.60 sera, siete tardi. Adesso tu stai arrivando 9.45, capito? Quindi ho visto che era alto il segnale, in genere il segnale di così qualcuno arriva, ma il grotto è forse anche più forte, però eri molto, molto spinto, quindi deve essere qua in zona, va? Brava, brava, non so neanche a quanto sta andando. Aspetta. Ecco. Ma va bene. Io 9.45, 9.50, con picchi un po' come 9.50, se da qua. Andava, a voglia. Almeno lo faccio viaggiare ogni tanto, dai, questa volta, apparecchiato qua. Se no mette muffa e ciao, Scusa un attimo che c'è una cosa. Brava. Che ti dicevo, ma io forse l'ho visto, ma cosa si vede? L'antenna? La tua antenna si vede? Sì, è messa un po' in posizione ambigua, ma già si vede. No, sto pensando quale possa essere, perché vicino alla prova un'antenna, però è bella in vista, forse non è la tua. Ma già è bella in vista, perché si vede, è a voglia. Come scende al passo di Antonio, già lo vedi? Allora, io da lì ho visto due antenne. Allora, una scende dove carabinieri, e c'è una bella antenna, si vede. E poi un'altra l'ho vista all'interno, dove c'è anche un suocera o c'è un supermercato, non lo so, ma mi sembra più che altro una multibanda. Supermercato? Ma molto più giù di casa di Antonio? Un po' più giù di casa di Antonio, che io giro per poi risalire da lui, e lì ci vedo una multibanda. No, la mia è quella di Antonio, la Giarella. La Giarella di Antonio, boh, non ce l'ho presente. Perché sta un po' all'interno, capito? Quindi ci hai buttato proprio l'occhio per vederla. Adesso ci farò caso quando passo lì. Cara, quando sei in zona, come passi da Antonio, la vedi? E già do un'occhiata, giusto per curiosità. Ma io strano, un'altra volta mi sembra che l'ho sentito, ma poi non stai entrando. Mi sono sentito anche tempo fa, che non c'ho tempo, dai, per stare qua, anche quando dietro sono stanco, e poi quei minuti, quei giorni liberi che ho, quelle mezze giornate, approfitto a fare quelle merlasse indietro, e qui quando c'ho un attimo di taglio di tempo, entro. Ho capito. E io sono qua e sto battagliando con questa televisione, cercando di mettere a posto tutto, che è un gran casino, che poi certi canali che non devi prendere, poi non è come l'altra volta, come memorizzato, ma almeno i primi canali, canale Italia 1, quelli tutti in fila come devono essere, invece questa volta erano tutti incasinati. Noi lo stesso, anche giù al mezzo non si vede, Rai 3, dal primo sino al terzo non si vede, poi tutti gli altri si vedono. E poi passivamente il primo, il secondo e il terzo, perché gli altri la Rai si vedono tranquillamente, Rai 5, Rai Sud, ora si vedono. Sì, anche io avevo lo stesso problema, che non mi avrei incasinato tutto nuovamente, mamma mia, avevo lo stesso problema. Ma infatti devi riprogrammare tutto mettendo la ricerca come che fosse in Germania. Domani mi sa che lo faccio giù. Perché qua a casa adesso si vede tranquillamente. Poverino mio, perché dice che a zona è dappertutto, anche Alghero la stessa cosa. Ci sono, per dire, da un palazzo all'altro, che cosa c'è? Quella, pochi metri di distanza, da uno all'altro non ha lo stesso problema, uno vede e l'altro non vede. Sì, perché è un problema di decoder, se un decoder nuovo lo vedi, perché viaggiano su tre bande, hanno solamente, quindi come si sposta, sta uno, si sposta, è complicato, di questo è il digitale terrestre, non è come la frequenza, ci sono di qua, e chi ha il decoder vecchio, come io qua, che questa televisione monta un decoder vecchio, devo fare questa roba qua, capito? E quindi è improbabile il decoder, devi riprogrammarlo. Guarda, se leggi sulla Nuova Sardegna c'è anche un articolo su questa roba qua. Gaba, la fine ci stanno portando a cambiarti di nuovamente, là. Alla fine. No, devi solamente fare così, si fa così, tu una volta che gli dai la ricerca, dagli la ricerca come ti ho detto io, tu mettigli il tedesco e poi ti riordini. Via, va bene. Ok, dai Fabri, io faccio un attimo di bianco che è arrivata gente, se ce l'ascoltiamo più tardi se coincide, dai. Beh, dai, così ho preso il gruppo che mi sto distraendo e ci metto detto 10 anni a farlo, perché ero a buon punto, dai. Io comunque sono in ascolto, però quando vuoi entrare bussa. Va bene, dai. Ci sentiamo dopo, ciao Claudio, ciao Fabrizio, ciao Antonio, se ci siete ancora. Ci ascoltiamo più tardi, dai. Ok, io sono in ascolto. Ciao ragazzi, buon proseguo, dai, ciao. Vabbè. Avanti. Sì, buonasera lì. E allora, come ti stiamo? Bene, già, bene, sul divano che sto cercando di sistemare tutti i canali, che era un gran casino. Tutti così sono, anche quella di fronte mi ha chiesto se glielo sistemavo, che non riusciva a prendere Rai 1, 2 e 3. E sono andato a sintonizzarli. L'ho fatto con la lingua tedesca. Anche io ho dovuto fare così, ho letto anche sul giornale. Ma adesso già va bene, dai. Ho messo tutto a posto. Anche io mi qua, provandoci, soprattutto a risistemarli, dai, perché erano un po' incasinati. Appaga, mia casina. Stanno piazzando casino e basta, noi ci hanno usato come cavi, adesso lo stanno facendo bene negli altri posti, sarà però di nuovo casino. Sì, perché si spostano, capito, si spostano e quindi è un macello. Beh, un attimo, fammi che metto lì. Ah, fai pure, tanto io sono qui che sto sistemando, va. Eccomi. Avanti. Ancora col televisore, sì, non è ancora qui. Ti avrò per parecchio, no? Io dimmi, per una volta che li trovi, poi li sto sistemando tutti bene e ci voglio onore. Mamma mia, mi abbara lui. No, ma ci sono i decoder che si risistemano in fila. Dipende da come li vuoi. 1, 2, 3, 4, 5 ti risistema tutti in fila, poi vabbè tutti gli altri no, ma quelli lì, vabbè gli altri vanno bene come li mette, poi fate di cerco, dai. 1, 2, 3, 4, 5 li mette tutti quanti in fila. Anche quello come è fatto la sottoria di tedesco, no, non me li ha messi in fila, capito? Ma non è il problema di ordinare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, invece tutti gli altri, un casino, per poi, io poi io sono pignolo, se non vedo le cose tutte quante inquadrate in una certa maniera mi si gira. Beh, io metto solo quello che guardo normalmente, metto, sì, Vigliorina, Antenna 1, eccetera, eccetera, tutti quanti in fila. Ho capito, anch'io, e me li metto in fila come io, però sono tutti i canali, li voglio tutti sistemati, quelli che non guardo li metto dopo, però tutto bene, se no ci sto male, capito? Io me l'ha pintato, per dire, mettevo canale 36, corrisponde a questo, e me l'avevo tutti segnati in un foglio di carta, quando volevo andare ci andavo al sicuro, guardavo, se no, ammettati di tutti, boh. Ma come sistemo io, poi diventa anche facile da provarlo, capito? Però bisogna farlo. Vabbè, non appento. Per carità. Ah, no, questo cacchio di record è stato per rompere le scatole, andava bene come te la prima. E buonanotte. E invece no, che invece no. Senti, qui sono una varia doppi, quindi quelli devi cancellare, capito? È un casino, eh. E vabbè. Che prima tutte queste interferenze, nessun segnale, tutte queste scritte qua non uscivano prima. Almeno ti guardi un film, diciamo, te lo guardavi con gusto. Adesso ti escono sempre queste scritte, si sente la voce sdoppiata, l'immagine sdoppiata, e poi scrive nessun segnale. Mai vista una cosa del genere. In più io c'ho anche Monte Oro di fronte, quindi non è a dire che il segnale non ne arrivi. E questo antroforio che cos'è? Tutta colpa dei baracchini che disturbano, lo sai? Che cosa? Colpa dei baracchini che disturbano le televisioni. Ah, adesso non disturbano più. Davvero, adesso già non disturbano più, eh. Mia, mi sto incasinando nuovamente, cazzo. Poi sono questi canali cagati che non servono a niente di pubblicità, di tele vendite, un casino, cacchio già. No, io ci ho sentito qui tre bu perché mancavano quelli bu. E chiedi l'Alicia a vedere, dice che fa TVI. Che cosa TVI? Con l'apparato, con l'antenna, la Ringo, che cosa c'ha? Con quella lì fa TVI. Ma è normale, che non è che fai TVI, gli blocchi il segnale, capito? Gli blocchi il segnale, perché è troppo vicino all'antenna, è normale. Capita, se pompi un po' glielo blocchi. È un casino, non dovrebbe, perché vabbè che con questi amplificatori d'antenna ti amplificano i segnali di tutto, e quindi magari si prendono anche il segnale tuo. No, ma a parte quello, scusa un attimo, a parte quello, il problema qual è? Che quando tu comunque devi rimanere, io ho fatto la prova, ormai, perché con l'analogica era diverso, ti sentivano dentro perché bastava poco, un filo, eccetera. Adesso più o meno il problema è uguale, ma cosa succede? Che il discorso del digitale deve essere perfetto, cioè deve arrivare un segnale. E sono delle, non è che gli arrivo un segnale, all'interno del segnale ci sono delle informazioni, quindi un classico segnale digitale, capito? Quindi gli arrivano, una serie di segnali, quelli digitali, quindi con tutte le informazioni, 1, 2, 0, 1, 2, eccetera. Se tu gli spari dentro le fatte, cosa fai? Tu vuoi il segnale, glielo incasini, e la televisione, il suo decoder, riceve un segnale incasinato dove gli mancano delle porzioni di informazione, e quindi cosa dice? Segnale assente, tu si blocca, ogni tanto gli manca la voce, si blocca, quindi tu devi portare, come ho fatto io, l'attivo, però l'antenna è 7 metri più alta, 6 metri più alta, 6-7 metri più alta dell'antenna delle televisioni, è spostato, quindi quando sparo non ci va a sparare di fronte alla parabola della televisione, diciamo, e quindi non gli crea problemi. La mia non sarà 7 metri, ma un metro e mezzo buono, fino a quello di quel televisore, quindi non dà nessun problema. E importante comunque alla fine ce l'hai un po' più alti dall'antenna, perché non devi sbattere dentro, anche perché se non te li butti 4 watt non credo che ci siano problemi, perché l'ho già provato, io non è il problema, però perché quando inizio a sbattere fuori un po', buttarci dentro un po' di watt, allora sì che gli crea problemi. Vabbè, quello ha sempre creato problemi, ma non gli sbatti un bel di watt, è normale che crei problemi. Ha acceso sempre allarmi di tutto quando c'è il watt. Prima passava dove c'era una vacca lì in Viale Umberto, mettevano la portante che aveva lineare in macchina, perché faceva scattare l'allarme con la portante, c'era hola, ragazzi. Uno sotto casa, lo stesso, ogni volta che rientravo, okay, io gli facevo squillare l'allarme della macchina, ma glielo facevo apposta, cacchio. Ogni volta che rientravo, non vedeva che c'eri tu, cavolo. essere immaginato, mi detto, ma tutte le volte che passa questo mi scatterà, pure voglio vedere perché gli altri non me lo fanno suonare. Ma quando ci andavo a bloccarlo, avevo già parcheggiato, vai a pensarci, no? Ah, cazzo. Vabbè. Ma comunque anche quello di Navacco in particolare suonava di brutto. Ma quello è quasi normale, perché tu è radiofrequenza, basta poco per farlo suonare. C'era un periodo che ci si sentiva anche al cinema, quando passava qualcuno parlando, sentiva al cinema in clave, immaginate un po'. Mi è sembrato di sentire qualcuno, avanti chi vuole entrare. No, non è nada. Uia. Stasera ero su internet, mi stavo guardando un po' di acquari, cavolo, ho visto un bel po' di roba in vendita, c'è un bel po' di acquari di questo genere qua, di roba in vendita a poco prezzo. Ma su eBay? No, su subito.it. Ho capito, c'è roba, dipende comunque di acquari, già è carino. Avevo un piacere, però poi diventò un lavoro. Non è vero, io ce l'ho l'acquario, non c'ho un anno. A casa qua ce l'ho 22 anni, quello che c'ho. Non è un lavoro, bisogna avere la passione. Se hai la passione ti viene tutto più facile. Io, l'acquario che mi dico, ho misurato il pH stasera dell'acqua, è tutto perfetto. Vi cambio 3 dita di acqua ogni 2 settimane, 3 dita, dico 3 dita, le faccio la pulizia del filtro una volta sì, una volta no, e ti ruba questo coso qui, ti ruba una mezz'oretta, non ti dico di più, quindi non è che sia niente di... Tutto sta a partire bene con l'acquario, perché se parti male col pH dell'acqua, con quello o con l'altro, nitriti, nitrati, eccetera, eccetera, comincia a morirti i pesci, comincia a malarci le piante, eccetera, eccetera, allora ti va tutto male. Ma se tu cominci bene, diminuisci il pH dell'acqua, i nitriti, i nitrati, come devono essere, ti fai una bella esposizione di piante, rimetti, è perché devi partire, prima lo devi lasciare una settimana senza nulla dentro, solo con l'acqua e andare così. Poi devi cominciare a metterli, c'è intenzione di mettere le piante vere, di fare uno strato di ghiaia, uno strato di concime, uno strato di ghiaia, uno strato di concime e poi un altro strato di ghiaia sopra. E così è pronto, quando li misuri il pH, dopo una settimana, comincia a mettere le piante, le rocce, e così comincia già a pulirsi bene l'acqua. Quando vedi l'acqua bella chiara, prendi i filtri, cominci a pulirli, a lavarli di nuovo e li rimetti dentro. Ma è un lavoro all'inizio un po' non complicato, bisogna seguire, se tu leggi internet, perché io oggi ho imparato una cosa. Non so, paura di stare dietro, capito? Anche lì bisogna stare dietro, diventa un altro impegno, una cosa c'è in più, Ma bella un bel, poi per chi ha la passione, vabbè, l'ho sempre avuta, mi è sempre piaciuto l'acquario. Io ho avuto i discus che costavano 83 euro l'uno e da piccolini, immaginate da grandi li vendevi a 300 euro l'uno e li ho anche venduti, perché ho venuto un mobiliere una volta, li ha visti, ne ha voluto due al prezzo buono, ma li sono venduti. Ho capito. Ma io sono colleghi che appassionati si ricostruivano, facevano troppe di cose. Infatti mi sta avendo la voglia, la passione, pure male che mi è passata, perché sennò devo fare un altro impegno, però non è brutto da vedere, è bella, una bella cosa. Questo di natura in casa, oggi ho scoperto leggendo internet, siccome c'ho quelle lumache grosse, non so se le conosci, quelle che rimangono sul giallo arancione, che si mettono nell'acquario sono lumache che puliscono il fondo, non rovinano nulla, ti puliscono il fondo dell'acquario. Ecco, ho scoperto che a queste lumache piace la lattuga e ho provato a mettere una foglia di lattuga nell'acquario con due pietre sopra, ho fatto l'esperimento. Lo sai che oltre che le lumache anche i pesci si mangiavano la lattuga? Gli piace. Un attimino di bianco da parte mia, che mi hanno chiamato, e ci sentiamo fra un po' dopo. Rimango comunque in ascolto, dai. E stavo aspettando anche il grotto, dovrebbe entrare, fargli una chiamata. E poi voglio rifarmi una chiacchierata se c'è qualcuno. Dai, ci sentiamo dopo che devo fare una cosa già. Ehi, vai tranquillo, Fabio, vai tranquillo. Poi da Grodo ti faccio dare un sito che gli ho passato io, adesso non mi ricordo bene come, te lo faccio dare, che è interessante, forse tu non lo conosci. Ci trovo dopo, poi così che mi sembra mentre me lo guardo. Grode, ci sei. Grode Grodino, ci sei. Sono liscio sì. lì c'è una quantità di cappelli, ma purtroppo ne hai più di me. Peggio per te che non ti hai messo la cura adatta. Dimmi un attimino, la modulazione va bene? Sì, va bene, giuro. Cosa stai usando? 757? No, le valvole sto usando. Allora, vai, va bene, non toccare, va bene. Anto, lo senti a Sandro, la polottorosi? Ma lo sento benissimo, senza problemi. E lui magari che non sente a me. Comunque, va bene, mi piace molto l'altro apparecchio, quello che c'ha, cavolo, può crescere bene. Ecco. Ah. Ecco, non me la radio. Buono, è buono. Lui non mi sente, Sandro, lo so già. Però io qua già lo sento bene, non ho problemi proprio. Se lo senti, col bombolo, Sandro. Lo ascolto proprio in sottofondo. Ciao Bombolo, buonasera, ma ti ascolto proprio pio pio. Era anche a te, dai. Però sai che ci sono. Capo, io sto scendo basso perché devo uscire basso stasera, ma cosa, sennò sennò mi rompiamo le bollas qua. Yeah, yeah. Datemi un secondo, perdonatemi un secondo, Gnoga, adesso ti rende un casino, mi sono ridichissimo, mi fa l'albero a Natale, non sanno come metterlo, allora non mi devo pubblicare lì, mettilo sul 950. Sul 950, la metto, non piace questa venderia a Nacciavi, a chi ha le mie intenzioni di pulirlo quando mi ha detto. Del repertorio, o potrebbe detta un po' quale problema fa togliare un piede di dicembre. Quindi anche ciò che abbiamo potuto. Cosa stai sentendo? Monti? Sì, per la sorpresa che ci hanno fatto stanotte. Su che cosa? Sì. Correnti. Sui conti sono in percorso. No, sui conti correnti. Non mi sembra. Altre cose quali sono? Sui bassi, le quasi di chi ha piccole cose e sui vecchie sicuramente. Io so che anche sui conti correnti superiori ai 3.000 euro tolgono 5 euro per ogni 1.000 euro in più. Lo sei tutto impastato, non ti sto sentendo bene. Sicuramente. No, c'ho problemi. Qualcosa. Abbassiamo, non c'entra niente qua, e qui non mi dice niente sulla LC nemmeno, ho capito. E se gli è successo qualcosa, Simona Radio c'è, ordina tutti dalla LC, ciao. No, non te l'hanno fatto, capito? Non mi sa tanto che c'è problemi, non sta uscendo, capito? Guarda tu il segnale com'è qua. Sì, hai detto che di modulazione allucinanti. Vai da 9.30 a 9.50. È quello che sta dando, qualcosa è successo. La radio adesso più o meno va bene. Sì, la radio non mi viene facendo la tua, ma il segnale va e viene, boh. Troppi picchi di modulazione c'hai. Lo so, non riesco. Cioè adesso guarda, allo strumento. Non ho fatto la fare. Adesso guarda, ora. Non sta segnando 0 watt, guarda, 0 watt. Adesso sta iniziando a dare un po' di watt. 0 watt, 0 watt, 10. No, c'è il problema, gli è successo qualcosa. Ho sentito la manovra finanziaria, si è spaventata anche lei, cazzo. Come ha detto che cazzavano le sue macchine, ha detto cazzo quanti cavalli, c'è un bel rivatto, e si è abbassata, si è spaventata, classe. Con questo basta, no, me l'ha fottuta. Almeno tu. Scusate, mi ero sull'altro canale. Che bel risolto. Cosa? Ragazzi, sto chiedendo a Fabrizio se va risolto. No, ci deve essere problemi, qualche cosa. Stazionari non ce ne sono, ma praticamente non sto uscendo, non sta dando fatto questo apparecchio. O si è sballato il... non sta dando fatto, non vedo... non mi sta segnando niente, capito? Strano. Non lo so, deve essere successo qualcosa. Invece lasciamolo così, mi sembra come lo tengo. Il segnale è diverso anche a te, no, Cla? Questo, c'è dei picchi di segnale allucinante da 9.30 vai a 9.50, capito? Boh, chissà cosa gli è successo, anche mi lega qualche cosa su questa cosa per capire, no, perché non era accesa tutta la sera, la verità, ma sono entrato alle 6 quando mi hai sentito tu, poi stavo ascoltando Monti col suo nuovo governo, cosa ci spetta, poi ho sentito Antonio chiamare, sono entrato e mi ha detto guarda che stai uscendo male, ho guardato e in effetti lo smitter è fermo, la lancetta è ferma, sembra che non stia dando watt, sembra che ci siano dei problemi. Non lo so Fabri, non lo so, lo sei tu che te l'hai fatto tu, te l'hai toccato tu e quindi non me te metto, non lo so. Io noto questa grossa differenza, nel senso che ci sono troppi picchi di modulazione. Non deve essere così alto il picco, capito? Tutto qua. Tra l'altro ti sto ricevendo anche con 950 e ci sono dei picchi allucinanti. Non riesco a tenerti fermo, non lo so. Allora Anto, attiviamo la regola radio. Anto. Senti, ma non ho copiato cosa mi hai chiesto. Apparato, se attiviamo la regola radio. Ma è che non si capisce quando cambi. Sei sempre uguale, sempre uguale. Uguale. Quello lì cos'è, il 140? Questo è il 140 con l'SM20 della ICOM. 140 con l'MC60 però più spinto. Questo spinge maletto. Microfono eccezionale. Microfono eccezionale. No, non già va bene. E questo è quello mio che avevo comprato nuovo, praticamente ce l'ho 20 anni, ce l'ho. Non l'ho mai toccato e questo da una cinquantina di watt. Infatti sto andando a manetta, sono 30 l'importante e 50 modulati, e boh, non sale più di questo, non l'ho mai toccato, ho tenuto verginello a verginello. Va bene, ce n'è anche di più, sai? Ehi, no, io mi, adesso, la prossima settimana, questa non so se ce la faccio, la prossima settimana, porto la radio a Tino, 4 fischietti. Posso mai mescito tutti in muscolo? Ma ha fatto un 440, è entrato un fulmine, l'ho mandato la guidetta da Bianconi e me l'ha tornato. Ma l'ha restituito, non si può riparare, anzi, per meglio dire, si può riparare, ma ci vuole una barca di soldi, e allora niente da fare. Ma non era quello che mi aveva detto che aveva controllato quello del fulmine che gli aveva mandato ed era una cazzata. Cos'è, l'ha ricontrollato e si è accorto che c'era più danno? Sì, solo là non c'è, ho bruciato la scala dei display anche, ecco perché inizialmente sembrava che non ci fosse niente, poi quando l'ho aperto è tutto bruciato dentro, c'è tutta la scheda madre, il display accende a caldo, cioè a freddo, poi come scalda si spariscono i colori. Qualche settimana fa avevi detto proprio radio che l'aveva controllato, l'aveva trovato, era solamente una resistenza, né dietro una fesseria che l'aveva già messa a posto e trovava a rispedire. E invece se l'ha tenuto un mese, invece non me l'ha spedito, ma è arrivato l'altro giorno, c'era la relazione dentro, a parte che l'ha sentito Sandro al telefono, c'entra a fare. Adesso tu accendi e gli display è completamente senza numeri. Guarda, te lo faccio vedere. Praticamente sono tutti degli 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, tutto. Invece sono praticamente degli zeri. È completamente il display, tutto a zero. Capito? Io capito, vabbè, è morto. Già può succedere. Come sembra che ci è successo a questa, adesso qualcosa gli è successo. Comunque questo è di colpo e non ha mai dato problemi questa radio. Sempre perfetto da quando ero rientrato in frequenza, che l'avevo rifatto il VC8 quanto adesso stanno problemi di vappa di colpo, perché stasera stava andando bene, non l'ho spenta, l'ho lasciata accesa in ascolto tutta la sera. Sono entrato, che non stanno watt, 0 watt praticamente, qualche picco piccolino e via. Vabbè, può capitare, come tutte le macchine, il giorno prima vanno bene, dopo un minuto si bloccano e gli succede qualcosa, normale. No, Fabrino, non ci sto a questi discorsi, io parlo per la mia esperienza vissuta, tipo circa il 440 è una radio che è nata male, no? Non c'è niente da fare. Io, è stata sempre per me il dotto, però è nata male, è troppo, c'ha mille difetti e le saltano fuori così all'improvviso. La radio mi ha dato soddisfazione il 430, punto e basta. 430 è completamente diverso, è nata prima, il 440 l'hanno messo troppe cose dentro e poi alla fine non servono a niente. È la radio che va bene per la 27 e 140. Io ce l'ho 20 anni, non è mai entrata da nessuna parte, ha sempre funzionato bene e continua a funzionare sempre bene, perché meno di 440 la radio che io tutte quelle che ho avuto mi ha sempre difettato, sempre, sempre qualcosa c'era, qualcosa c'era. Ho speso una barca di soldi. Ecco perché ho detto basta con le 440. Preferisco tenere il 430 e il 140. 440 fuori alla balle, non voglio più sentire parlare. Non lo so, questo è una cosa strana, cioè voglio dire, sta andando, non è che non sta andando, ma io lo vedo, la conosco la radio. Stasera stava andando bene, e poi non l'ho nemmeno spenta, stavo guardando la televisione, facendo due cose con i bambini, vedendo questo cazzo di nuovo governo Monti, poi niente, ho sentito il Grode chiamando. Sono entrato, vedi, sta uscendo, però sembrerebbe che non stia dando vatto, non è il display, non è il display, perché tu stesso mi dici che ha dei picchi, che non è, che il segnale mi è strano, quindi mi è successo qualcosa, poi quando ho tempo domani o dopo gli metto mano e gli do una controllatina, vediamo un attimino, però quello che dico è che può capitare a qualsiasi macchina, no? Che c'è una radio, una macchina che si ferma, il giorno prima funzionava, può capitare. Sempre come dici tu, questa in effetti problemi ne dà. Vabbè, e vuol dire è nata così. Massimo Pasoletti, io ripeto, parlo per esperienza mia personale, ti dico che il 440 a tutti ha sempre dato mille problemi, a me personalmente lo stesso, sia con la prima, con la seconda, con la terza, riparate, tenute, vendute, riparate, mi sono rotto, capito? È un capitale che non mi va più di seguire, preferisco tenermi 430 che non mi ha mai dato problemi e 140. Va bene così Fabri, io consiglio per esperienza mia vissuta, poi è chiaro che ognuno fa quello che vuole, io la mia, la nuova, quella praticamente nuova, l'ho lavorata Sandro, e anche Sandro l'ha fatta fuori, l'altra che avevo preso l'ho fatta fuori lo stesso, io 440 non ne più, ho 430 e 140 per la 27 e poi le altre radio che mi servono per fare attività amatoriale. Basta, finita già gruppa, Antonio riprenditela. Sono un po' qua da farmi una doccia che ho fatto una rastita di pancetta che la metà basta, ecco, mangio un fiacco addosso che mi stanno seguendo i gatti. Per la pancetta? Per la pancetta già ne fa fumo. Ah, come hai cucinato, non odore, anzi un profumo abbastanza gradevole, non c'è problema. Va bene. Comunque, Fabri, se ti può interessare, mi hanno portato un 27-25, come quello di Antonio, ma quello c'ho io, della ICOM. Se interessa qualcuno, ne vuole 200 euro nuovo dentro la scatola. Grande radio, anche quella, per esperienza mia personale e quella di Antonio, credo che ci sia perfetto, ottima radio. Ho sentito costava tanto, 2,79. Io l'ho pagata, adesso non mi ricordo quanto l'ho pagata, mi sembra 2,20, 220, una cosa del genere. Ma hai preso la subì? Su subito, devo dire la verità, io sono sempre stato fortunato acquistando radio sia su eBay perché ho preso i 240 e il 27-25 l'ho preso su subito, poi quello che mi ha rovinato la media è col 440 che è già ritornato al proprietario, però il 27-25 è un'ottima radio, tant'è vero che non se ne trovano in giro. Faccio un consiglio, se lo vuoi accettare tieni il 140, uno o l'altro, tutte le bottine, anche te due perché sono tutte e due ottime. E punta, attaccati al computer e punta su una T250, ok, c'è la curvatura esterna di linea del 140, del 70 e del 430, come quello che ho io, ti fai la linea del 140, non sbagli, intanto il 440 in più c'è solo la curvatura, ragazzi, non c'è altro, sinceramente parlando, non c'è altro in più che ti possa servire rispetto al 140, perché una volta che tu li inserisci la T250 non c'è nessun problema, per la 27 hai il top, il massimo, io tornando con 140 la T250, c'ho commutazione d'antenna a 4 antenne, c'ho rosmetro, wattmetro, c'ho tutto, capito? Quindi in automatico uguale al 440, solo il 440 devi pigiare il bottone per accordare, con quello lì lo metti in automatico, ovunque ti sposti schiacci la portante e lui va in accordata automaticamente e lo paghi 200 euro, non di più di 200 euro, 200-250. Va va bene con tutti gli auguri, lo stai già cercando, se senti questo rumore perché sono su internet, e va bene con tutti gli apparati, compresi i baracchini come accordatore o solo HF? No, cercavo le motte, appositamente per il 140, il 680 e il 430, capito? Al suo cavo remoto dove c'è l'aggancio dietro al GC1, tu inserisci il cavetto lì, è alimentato a 220 ed è il top, il massimo, guarda, della, che tu possa avere come accordatore automatico. Non c'è nessun problema, e ti fai una bella linea del 140, se verrà da me risparmi quattrini e sicuramente non avrai problemi che il 440 comporta con l'andare del tempo, capito? Io ripeto, parlo per mia esperienza vissuta, poi è chiaro che io ti sto dando un consiglio, poi se vuoi passare al 440 puoi farlo tranquillamente, però io non ne sono disfatto perché già stavo iniziando a difettare di nuovo, ho lasciato un paio di giorni che non lo accendevo e stavo usando il 430, l'ho acceso di nuovo, puntini, puntini, puntini nel display, dopo un quarto d'ora, 20 minuti si è messo a posto, boh, imballato e spedito immediatamente, non ne voglio più, quindi ma ce n'era una settimana scorsa di AT250 nuovo, non visto, nuovissimo. Sto guardando in quello tedesco, sto guardando un attimo in Germania. Clicca direttamente, vai su Google e scrivi direttamente AT250, cerco AT250, clicco da AT250 e guarda se c'è qualcuno che lo sta vendendo. Io l'ho trovato così, due volte. La prima volta l'ho dato a Franco, la seconda volta l'ho trovato proprio su, ho messo il motore di ricerca e me l'ha cercato lui. L'ho telefonato, me l'ha mandato, nuovissimo, funziona bene, ce l'ho già qualche anno. Solo ho pagato una barca di soldi, 300 euro. In Germania non ce l'hanno. Adesso guardo in Italia, o su subito guardo un attimo. Ha carrellato anche su eBay. Intanto è un accordatore, non è che c'è molto da fregare. Non è che c'è molto da fregare. Un accordatore automatico, quindi, che praticamente è lo stesso che monta il 440 internamente, questo l'hanno fatto esterno di linea con rosmetro, wattimetro, accordatore e commutatore d'antenna. È una bestia, è una bellissima cosa. E a me Fabi, lo stai attendo, l'hai già aperto. No, ecco, non ho voglia, ecco, sono tutto il giorno, ho la testa in fumo, sto ancora giocando, gli ultimi 4-5 canali, sto cercando di sistemarmi, capito? Li voglio sistemare, perché quanto è questo qui, il canale 98 mi pare, no, sto sistemando, ho rimemorizzato tutto, questa volta li sto sistemando come si deve, se no ogni volta mi intrippo con i canali, e ci vuole, sembra oggi, ma ci vuole una sera, da stasera, piano piano, mi sono interrotto giusto perché stavo guardando Monti, come ci deve tirare il collo, e via, qui ho ripreso adesso e ho avuto questa brutta sorpresa della radio, niente, quindi non ho nemmeno tempo, domani mattina me l'avrei aperto, ma ho promesso a una persona che gli stavo costruendo tanti anni fa, mio zio, no? Che lui è un artista stampa, professore di quindi adesso in pensione sta facendo teografie, questa roba qua, no? E io sto costruendo un litotto per stampare ed era da assemblare da tanti anni, solo che devo rimettere il rullo grosso, un rullo da un metro, quindi non giocare, e devo rimettere al tornio per glielo devo un paio di centimetri, e quindi per mettermi al tornio devo costruire un attrezzo che mi ho costruito, una lunetta si chiamano, per tenere il, per supportarlo alla fine questo rullo grande, quindi domani mattina lo devo portare in garage e me lo devo lavorare, quindi non ho tempo, vediamo un po' domani sera, però prima di aprirlo è inutile, prima che inizia a leggermi il manuale e vedere un po' cosa può essere successo, intervenire proprio dove, però mi sa tanto quando succede così, secondo cos'è, ci vogliono le apparecchiature per metterlo in linea, magari si è disaccoppiato qualcosa, quindi sarà da allineare, ma se non c'è le apparecchiature, secondo cos'è, dovrai, capito, ci vuole, è inutile, qualcosa lo puoi fare, ma quando secondo cos'è inutile, cazzo, ci vogliono le apparecchiature, se no non hai riferimenti. Lo so. No, io sul 440 ho fatto solo l'apertura, tenendo conto che quello che ho comprato, l'ultimo, era praticamente nuovo, usato pochissime volte. Cosa ho tenuto? 2 o 3 mesi qua, 4 mesi, cosa ne so. Quando ho fatto con Alessandro, quello che ho comprato, non so, 6 mesi, 7 mesi. E già questi ultimi giorni stavo iniziando a difettare. Ho fatto una telefonata, ho detto, ma tu non volevi un 440, sì, allora te lo sto mandando, procurami qualche altra radio, se di non ne voglio, e mandi qualche altra radio. L'ho dato perché intanto è un testare tira molto. Sono delle radio che con l'andare del tempo difettano sempre. Il 140 a me sinceramente non mi ha mai difettato, il 430 lo stesso, il 430 c'era una vita, non ha mai difettato, ma il 440 è una cosa allucinante. Vabbè, vedi tu Fabri, io avrei dato una sistematina e poi te l'avevo imbarcato, ti recuperi quel quattrini, aggiungi la differenza. E se no mi trovetto dal 21 al 23 c'è la fiera di Genova, te lo porti appresso, vai, c'è tutta l'esposizione, vai in qualche banca, dai 50.000 per questo 440, 400 euro qui, quello quanto costa? 600, mi dia quello e te lo porti via. Ma scusate, c'è un'occasione, se sono buoni, e cioè come da titolo vendo kit Kenwood, composto da kit nel senso della tutta la serie, e vende un ricetrasmettitore Kenwood 430 più l'alimentatore del 430 più l'accordatore automatico AT250 più il microfono da base MC85, il tutto per 650 euro. Prendilo al volo, ma non così, al volo, prendilo adesso, subito, telefono adesso, fatelo mandare domani, ma stai aspettando, dice un valore almeno di 1500 euro, perlomeno vendendolo io, il PS 430, che è l'accordatore di linea del 430, ce l'ho anche io, c'ho il PS 430 e il PS 50, che è quello del 440. Solo il PS 430 costa 200-250 euro, la T250 non meno di 300 euro, la radio 500 euro il suo valore, perché è quotata molto più del 440, il 430, non so perché, però è così, quindi è da prendere al volo. Però, 650 euro in questo momento, obiettivamente, da investire in questa cosa, non ce li ho da investire in questa cosa, però se li vendete, è che dice non vendo separatamente, mi dispiace, perché poi sarebbe fatto anche più soldi, come dici tu, cioè piuttosto che venderli in blocco, così li vendi separatamente e tipo, ci guadagni molto di più, mi sembra tutto nuovo, è ben tenuto. Perché? Completamente è una bestiolina. Un bella radio, funziona bene, molto più seria del 440, io lo sapete che parlo in faccia, perché ce li ho le radio, quindi non è che sto disprezzando quello degli altri, sto disprezzando le mie stesse, però il 430 a me mi è andato sempre meglio del 440, esteticamente diciamo che sono uguali, manca qualche cosettina, ma se non ci stai attento sembrano uguali. È una bellissima radio, veramente, te la consiglio, guarda, peccato che in questo momento non puoi investire, magari quando puoi investire fra 1 o 2 giorni non ce l'ha più, quella è la linea completa, come c'ho io, c'ho la T250, la colonnina esterna, il PS430 e il 430 e l'MC60, lui invece sta dando l'MC80-85, quindi altri 150 euro di microfono. 85. No, l'unica cosa, non vorrei che fosse già scaduta, perché è stata messa 25 settembre, quindi secondo me l'ha già venduta e si è dimenticato di toglierla. Può darsi pure che sia così, però controlla, perché singolarmente ho visto l'altro giorno che c'erano avanti 250, infatti stavo cercando Luca, non l'ho trovato, perché anche a Luca le dirò la stessa cosa, cioè c'è il 140 che è nuovo, funziona bene, poi era il mio quello, anche quello è comprato nuovo, non ha molte mani, è mio, quindi per chi ha 140 vi consiglio di puntare sulla T250, cercatelo, fate qualcosa, non cambiate il 140 per comprare quel 340, se cambi il 140 devi andare su qualcosa di più serio. Però io ho tirato le somme, vabbè, ne ho approfittato perché c'ho la T250, quindi lo posso invertire, o sul 430 o sul 140, in questo momento è sul 140, però è così e basta, no, non ci sono discussioni. Invece consiglio a Fabrizio di prenderlo il 27-25, ottima radio, se ti completa davvero la frequenza. È per lui che vuole iniziare a vivere le bande amatoriali, è nuovo, come il mio, infatti l'ho piazzato, le ho attaccato il frontalino, l'ho attaccato al mio, a fianco al mio, e gli ho memorizzato tutte le frequenze, tutti i punti con i vari toni, le varie cose, e poi l'ho messo dentro la scatola così. Se lo prende qualcuno c'è già tutto pronto, non deve stare lì a mattanarsi del vento. Nel corpo in che cos'è? In ghisa? Allora, quello è tutto dissipatore. Quello fa da cassa, più sopra c'è tutto il dissipatore. E nonostante abbia il dissipatore c'è anche la ventolina, ce l'hai visto, che è abbastanza a due velocità. A portante fissa e poi quando lasci la portante. E si può selezionare dal menu, lasciarlo sempre attaccato oppure non è quando schiacci portante oppure quando raggiunge una certa temperatura. Sì. L'ho fatto tu, non l'ho lasciato così il mio. Stesso io l'ho lasciato come raggiunge, come va importante, parte però poi sulla temperatura, in base alla temperatura si accende e si spegne. Perché devo dire la verità è un po' fastidiosa, ci sono dei blog su internet dove qualcuno cercava di disattivarla, perché poi alla fine non è che scaldi così tanto, anche perché non è che ha tutta questa potenza in watt da poter scaldare, nel senso che si sente sicuramente, però non ha motivo avendo la cassa in ghisa, quindi prima di scaldare ci metti, va benissimo. Ottima radio per quello che posso intendere, ma cioè, rispetto al prezzo assolutamente, abbinata una buona antenna, un ottimo apparato. Grande investimento, io mio ce l'avevo quando viaggiavo col Peugeot, ce l'avevo a frontale estraibile davanti e con l'antennina piccolissima, ma ricevevo tutto e parlavo con tutti. Che palle, speriamo non piova domani, fatti vedere domani, sono libero, devo andare alla Mercedes, perché la compagnia dell'aria deve firmare il passaggio di proprietà dell'altra macchina che l'hanno già venduta, l'altra Smart. Quindi devo scendere con l'aria a fargli firmare il passaggio e a ritirarsi il libretto, che è arrivato il libretto, e poi sono libero, magari sentiamo questa mattinata, ci prendiamo un aperitivo da Andrea. Non ci sono problemi assolutamente sì, domani dovrei essere abbastanza libero, sperando che non piova. Ma Bryce, cosa stai facendo? Allora, ho finito di televisione. Adesso ho preso il computer, perché stavo aspettando che finisse questo passaggio. Dammi la marca e il modello di questa radio che voglio dargli un'occhiata. Com 2725 il cambio. Icom? Farò del Icom IC 2725, IC è la sigla, circa Icom. Fabi, ho fatto la cosa, però ho dovuto fare prima installazione. Praticamente rientrare nel menu del coso, del recover, e fare prima installazione. Ho messo l'installazione in inglese e mi ha trovato Rai 1, Rai 2, Rai 3 e poi mi ha memorizzato tutti i canali, la 5, Rai 5, tutti. Un bel ce n'è adesso. Tutti quanti. Meno male. Io l'ho preso in tedesco, perché è quella più aperta, si dice, che quella tedesco è quella dell'apertura, l'ho letto sulla Nuova Sardegna, anche a me me l'ha fatto, capito? Però penso di esserci riuscito, perché anche io non li vedevo, ma pensavo alle volte, invece poi ho sentito un sacco di gente. Allora, ce l'ho qua questa cosa qua, allora 50 watt, potente uscita 50 watt, 25 alta media, UHF 35, in UHF 25 bassa, FM, resistenza variabile, vediamo il segnale, rumore, com'è, frequenza, stabilità. Sì, questo è pagina obsoleta in vendita, sì, già lo sto vedendo, quindi col microfono e tutto, sì. Ah, c'è un microfono con la tastiera di TMF, costa. Quanto costa quanto l'hai visto tu? Per il microfono intorno agli 85-90 euro lo trovi, chiaramente non originale, quindi quello originale non so esattamente cosa costa. Io penso che il microfono originale costi un cento, più di 100 euro, quindi in compenso ti viene la radio a 100 euro. Questa è 200 euro, ma è nuova, mano mia, nuova, dentro la scatola originale, manuale, il suo carretto, tutto. E che lo sta vendendo questa qua? L'animatore me l'ha data. Un animatore che si è comprato l'857 e quindi quella lì non l'ha passata, ma tu vada a classe, riesce a venderla qualche secondo più, allora non c'è problema. Ma nuova, faccio nuova. L'avrò usata sino a 4-5 volte. Stando un'occhiata, a vedere cosa si trova. Vedi un attimino, l'ho vista, è bellina da vedere, molto bellina. Sto dando un'occhiata visto che sono in rete. Quella per la macchina un domani sarebbe l'ideale. Per la macchina anche per casa, non c'è problema. Le attacchi il frontalino e la tieni così. Quando la devi mettere in macchina, c'è il carretto da 5 metri anche, mi ha fatto, proprio per il frontalino, per mettere nel cofano, l'unità nel cofano e il display davanti con la sua staffettina, tutto, ma è molto bella. Io ce l'avevo, ma che qui c'ha due colori, c'ha il display verde oppure lo puoi fare arancione. Ho capito, quindi c'hai due colori, si può fare, dai. Sì, molto interessante. Ho fatto male nel caso la voglia vedere Luca o serva Luca, perché mi ha detto che se la voleva comprare stava cercando, ma per comprare Mandetta almeno sai che compri roba nuova. Questa nuova è la scatola sua originale, con carretto, tutto, microfono, qua dentro la busta, mai usata, l'avrò usata due o tre volte, mi ricordo, gliel'ho vista un paio di volte e poi non gliel'ho vista più. E mi ha detto che si è comprato l'857. Io ho capito, e sto guardando, più o meno il prezzo è quello, vedi, è valutata. Come valutazione, questa è nuova, non è tripletta nuova, anche se è usata, ma è nuova, l'avrò usata un paio di volte, non lo so, capito, è nuova proprio di pacca, ma non ha un graffio, niente, originale. Ho capito, quindi quello è il prezzo finito. Sì, metto 200 euro, metto lui la pagata 2,70, ma l'avrò presa 2 mesi fa, 200 euro e non mi frega niente. Guarda, se la riesci a venderla. Io ho capito. Vabbè, vediamo. Se non senti di lì, se ci fa uno sconticino per gli amici, così la prendiamo. Io posso anche dire, non c'è problema. Non è roba mia, no, non mi interessa. Io posso anche dire. Domani lo telefono, glielo dico. Dico se è l'ultimo prezzo, o se vuole abbassare di qualcosa. Ma la stai pagando, la stai pagando. Chi l'ha comprata sta pagando bene, per effetti. Antonio l'ha comprata a 2,20, più sicuramente il trasporto. Sono 3,20 euro, quindi 2,40. Non te l'ho pagata tanto, finita, quindi trasporto 2,40. A dirti la verità non me lo ricordo, non me lo ricordo, posso controllare, ve lo dico subito. Io sto pensando per no, perché io ho pagato 20 euro da Cagliari a Sassari di un microfono, un Tamer P2, quello Baramatti, con la TNT, da Sassari a Cagliari, cioè da Cagliari a Sassari mi hanno fatto pagare 20 euro di trasporto, un pacchettino, una scatola di scarpe, capito? Ladri, grazie, bacchiare in te. Sì, perché sono ladri, perché è uguale che la mandi da Sassari dove cazzo vuoi, il problema è che quando vedi preti in Germania, cazzo ordina una cosa dalla Germania con 6 euro, 8 euro, cazzo un pacco enorme te lo mandano con 17 euro, 14 euro, capito? Cazzo qui in Italia è tutto più caro, cazzo da 9 euro i pacchi sono passati a 12 euro, cioè è possibile, vabbè, me lo aumenti, 9,50 euro, cazzo 3 euro di colmo, fatti la percentuale, cioè sono tutti scemi, capito? Parlando del 9.30 si è andato a 9.50, guarda che secondo me sta funzionando quella radio adesso. Cosa? Aspetta, forse sì, l'aspetta là. Forse c'è ragione, adesso ho visto lo smitter salendo, poi ti spiego perché. Hai ragione, aspetta, così la rivedremo l'LC nuovamente. Hai ragione, allora. Ora, adesso si vede. Cazzo, sono contento, che bagassa che... Allora, 1, 2, 3, provano, e infatti forse anche alta l'LC, aspetta che la... alta è l'LC, no? Ma va bene, visto il segnale di 9,30, a un certo punto si è stabilizzato a 9,50, quindi ha detto, beh, allora sta funzionando. Malata, perché la mia sta facendo così, un po' funzionava bene, un po' spariva il display, puntini, poi lo lasciavi un po' in stand-by e riappariva il display, ma vaffanculo, mi ha rotto le palle. No, lo so cosa è successo qua, aspettami d'ora. Aspetta, e nuovamente, un po' di picchi stanno, cazzo. E questo però si è fatto così, qualche falso contatto, non è possibile. Mica, adesso è nuovamente scesa, lo vedi. Ah no, scusa, sono in LC, sono PVC. Ho ripreso come siamo. Che bagasse. Sai cosa è successo qua? Non già sta funzionando adesso, tutto ok. Quanto è il segnale mio? Vediamo se è giusto. Quanto è? No, il segnale tuo qua, sei 9,30 più e vai a 9,40, un po' di più con picchi positivi, sempre quel segnale tuo, il tuo vale da 9,30 a 9,40, dipende da che input utilizzi, da quanto stai pompando, da come spingi la voce, poi c'è il baracchino, sei un po' diverso, lo conosco bene il tuo segnale, infatti la prima cosa che ho guardato è il tuo segnale, è il segnale di caso che radio sta usando, è il segnale suo, capito? Ma non sono a 30 watt, non sto spingendo. Non sto spingendo di solito. Quando uso il 4,30 vado a 100 watt, questo lo sto usando a 30 con picchi di 50. Picchi di 50, 30, 50. Vabbè. Non c'è problema, non bisogna spingere più di tanto. Tanto è inutile, siamo tutti vicini. Poi se c'è qualcuno a distanza già ci aiuta la posizione, non è un problema. E Mento, quanto l'hai pagato? Lo sto cercando un attimo fra le email per tenere un contatto diretto. Ti stavo dicendo che sì, no, ma io il tuo segnale lo conosco, capisco che radio sto usando, che quanti watt gli stai dando dal segnale, capito? Il segnale tuo è quello, poi in base a come utilizzi, gli dai watt o meno watt, vedo che sali, hai più picchi positivi, meno picchi, sei un po' più giù, comunque riesco a capire anche più o meno quanto. E quando tu spari un chilo qua, il bello che non è che mi aumenti molto, cazzo, rimani fisso, picchiato, sicuramente aumenti, però cazzo, non è che aumenti moltissimo, qua, se siamo troppo vicini. Oh, è lì che aumenti. Aumenta e aumenta fuori. È chiaro che in città non serve a niente far vedere queste cose. Si fanno fuori le prove, non città usa. Città, ostacoli, vicinato, no? non ce n'è di differenza. Forse c'è, ma capito, no? Non è che cambia molto. Già va bene. No, non mi interessa più che altro la radio se va bene, capito? E questa spinge un po' la radio, questa è micidiale come anche come timbre che c'è molti acuti. No, già va bene, se non te l'avrei detto. Sì, qua è successo quello, che stava guardando Monti, no? Il governo, e stava dicendo tutti i tagli, tutte le cose, e ha detto che tassano le macchine di lusso e avevano compreso le una certa cilindra, invece loro l'hanno abbassata, stavo leggendo oggi su internet, e la mia dovrebbe rientrare, capito? Quindi dovrebbero tassare qualche tassa in più. E se l'era incazzata e c'era la radio, si è spaventata, non ha sentito cazzo Monti che tassava, e ho detto cazzo 100 watt, e sceso 2 watt, adesso come ho sentito che non c'entrava lei, che volevo comprare un'altra volta, e forse c'è la fame, non mi mette via, e adesso si è rimessa a posto, si era spaventata anche lei, hai visto la fiducia del governo. È una radio che si spaventa molto facilmente, capito? E per quello... Detto, no, sono un'utilitaria, sono un baracchino, meno di 4 watt. Cazzo l'italiano, anche lì truffando. Maledetta, cazzo, abituata bene. E te rimani se tassano anche le radio superiori a 4 watt. Cazzo, tu ci dobbiamo vendere tutte le radio, allora? Non sono pazzo, no, ma io ho seguito tutto, la verità. Mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto come discorso, il tutto filava più che bene, guarda, alla fine qua. Certo, purtroppo i politici che sono venuti prima ci hanno mangiato tutte di più, quindi questi in effetti non è che stanno facendo pagare chi c'ha di più, lo trovo giusto. E giustamente loro, mi pare, dai 2002 in su di cilindrata vogliono mettere una tassa, alla fine cosa sai, tanto il bollo più pago già abbassa, ma cazzo ti metteranno 200 euro in più, lo trovo anche giusto, voglio dire, cazzo, se ti compri una macchina così non è che problemi di spendere 200 euro in più, le paghi perché le devi pagare, lo trovo anche giusto, poi ti mettono 3.000 euro di tassa, allora cazzo ti si gira i coglioni, ciccio, cazzo, io che quello è una macchina da lavoro, che io un po' per sfida, una macchina che la usa per muoversi, quindi non rompere i coglioni. Però se ti mettono al bollo, ti aggiungono 200 euro, lo trovo giusto, per un momento di crisi è giusto pagarli, non lo trovo sbagliato, capito? Quello che ho letto, che vorrei vedere, che parlava sulle barche di 15 metri, sulle barche oltre 10 metri mettono la tassa, però bisogna vedere lo stesso quanto, se uno che c'è una barca di 10 metri gli mette una tassa di 300 euro all'anno, lo trovo anche giusto, perché se la barca a 10 metri non sei uno ricco, se magari uno che sta lavorando, che ha rinunciato a un'altra cosa per quello, e magari c'è quello, e 300 euro è anche giusto, se te come comunque le puoi pagare, però io stavo leggendo, volevamo mettere qualcosa come, mi sembra 15.000 euro di supertassa, i giornalisti, se mettono così sono pazzi, non credo, Minchia, cazzo, allora sarebbe veramente la fine del mondo, nel senso che c'è da disintegrare un po' tutto, A me mi ha rotto le balle perché cazzo l'avevano tolta la casa per, cioè la l'ICI per la prima casa, capito? Questa per me è prima casa perché l'altra è stata mia moglie, quindi questa è stata a me. Spero che non mi facciano pagare l'ICI come prima casa, non ho sentito se prima casa o seconda casa. No, l'ICI, reintroducono l'ICI per tutti, capito? E dovrebbe essere legata l'ICI, la prima casa se la rimettono tranquillo, però dovrebbe essere legata al nucleo familiare e al reddito. E quindi, non lo so, però la reintroducono. E il problema è che cazzo, cioè alla fine il problema è che pagano sempre i soliti. La classe media, sempre quella, è quella che viene trattata di più, perché è quella dove puoi beccare subito, però ho visto che comunque, da tutte le, di come hanno parlato, a differenza degli altri che parlavano molto, perché poi tagliavano sempre ai poveracci, questi sembra che comunque stiano toccando anche gli intoccabili, hanno iniziato a toccare, capito? E quello già mi fa piacere. Confla, allora, facendo il problema, però. La persona che me l'aveva venduto era IZ8VKN, il parliamo attorno al tuo collega, però non riesco a trovare il prezzo, perché c'è stato uno scambio di email, però adesso lo sto cercando. Io vabbè, se te l'ho data 220, l'avrei pagata 200 più trasporto, oppure 220 più le 20 euro di trasporto. Orientativamente siamo lì, non è che cambia niente. Comunque se ne vuole 200 senza trasporto, senza niente. Credo che lui l'abbia pagato a 270 più trasporto, più la spedizione, insomma, ecco. Quindi sarà venuta 290. Per 200 euro a me non mi serve, ce l'ho già. Altrimenti me l'avrei presa alla grande, perché è un buon prezzo, poi è nuova, quindi. No, io mi potrebbe interessare, ti ripeto, no? Come vi ho già detto al Grode, che dice compra quello, compra ogni tanto, mi paghi l'altro giorno, stavo per prendere il portatilino perché mi convince, ma poi dico, ma io non me ne faccio niente, perché a me questa che ho qua mi va più che bene, c'è un ricevitore per fare ascolto, vado ogni tanto ti ascolto, anche non di spesso, ma anche da poco ti ascolto in 4:40, e mi faccio un po' di ascolto, no? Punto. Finché non prendo la patente e se riuscirò a prendere questo pezzo di carta, cosa me ne faccio, dico, capito? Però voglio dire, se questo la vende, fagli l'ultimo prezzo, io 180 gliela hai fatto, tra l'altro me la metto nel cassetto e aspetterò per un domani, capito? Non la devi mettere nel cassetto, non la devi mettere nel cassetto. Vado agli IBC, ti compri un'antenna come quella che ho dato a Fabrizio, la metti sotto la mantova, bassissima, non c'è problema, e ci facciamo due chiacchiere anche nelle PD, perché con Antonio a volte ci spostiamo e facciamo due chiacchiere nelle PD, non è un problema quello. Ce l'hanno tutti, cosa ritengono nel tuo cassetto. Quando poi verrà il momento che lo devi usare nelle bande che ti sono state assegnate, allora non fai altro che usare tutto qua. Ma vuoi è fatta, ti dice che fa questo sconto, gliela prendo, che poi ci devo comprare anche l'antenna, vado, compro l'antenna, una bibanda, prendo, tiro giù il palo, faccio una staffetta L e la monto a fianco, là. Io già ne metterei giù il palo, non metterei giù niente. Lo stesso, una lampetta uomo, le fai una staffa palo palo e gliela attacchi lì. E facciamo due chiacchiere quando non abbiamo voglia di parlare qua, non la facciamo con Antonio, a volte due prove, due cose, con chi ha quel tipo di radio, anche Luca se lo deve prendere, prima con Luca stavamo sempre alle PD, capito? Ci stare col portatilino, usi quella, passa con te, fa 5 watt e ci facciamo due chiacchiere, tutto lì, cosa devi mettere nel tuo cassetto, per quello te lo sto dicendo, se capita magari che qua no, non c'è nessuno, dobbiamo parlare di cose più delicate, la discorsi, le PD, si cerca una frequenza normale, si fanno due chiacchiere, non c'è QRM, non c'è propagazione, il segnale è sempre a fondo scala e va bene. Ah, beh, vai, senti, lo domani, fammi sapere, ci sentiamo domani o per radio o per telefono, fai uno squillo, dice io c'è un amico, fagli 20 euro di sconto e se la porta via. E così poi ci aggiungo, vedo un po' su internet, se l'altro, perché li ho già viste, adesso guarda, te lo dico, dai, ti rilancio, fantastico, cosa ho visto, così mi dici, cazzo, l'altro giorno stavo per comprare un pezzo incredibile, ma ti stavo cercando, poi non ti ho trovato per chiedere informazioni. Poi la verità mi è passata per la mente perché ho avuto altre cose in testa, mi ero parlando anche con cosa delle proposte che ho avuto al lavoro, quindi stavo a prendere delle decisioni che ancora non ho preso, quindi stavo pensando ad altro, però avevo trovato un ottimo prezzo il Kenwood, il PL20, no, 922 può essere lineare da 1 e 2. È quello che avevo io, PL922, ce l'ho qua davanti a me nella foto che ho fatto, quella delle QSL, c'è il PL922, adesso c'ho lo Yaesu, l'FL7100, ma prima c'avevo il PL922, e quanto 500 euro? Il coglione, quello forse intorno a 900 euro riusciva ad averlo, il suo valore lo fanno dai 1000-1200 euro, comunque perfetto, ottimo, lo fanno nei 1200 euro. Compreso di nuovo, guarda che le 3500 vetta, che sono due valvole che montate da 922, che con 500 euro sono le valvole. Compreso di valvola, infatti, 1200 euro, 1000, 1200 euro, 1100, quello è quello che lo stanno vendendo, capito? Buono, buono. Ho venduto Walter ad Antonio, un motore, motore 1000 euro, nuovo, bello. Io non ce l'avevo, se non l'avrei preso perché è una bella, un bel pezzo, un bel pezzo. Un bel pezzo, poi collegato al 440, io ce l'avevo infatti collegato al 440, ce l'avevo lì, c'è il cavettino sulle notte, va molto bene, eroga in AM, eroga sugli 800-900 watt, ma per tenere una bestia del genere che assorbe un kilowatt per la 27 non te ne fai niente. Quello è un bel amplificatore che usa in banda laterale, eroga tutta la sua potenza e va bene, ma per l'AM io preferisco sempre usare un baracchino con un bel lineare da 400-500 watt, allora sì, capito? Ma sfruttare tensione per usare quelle cose 27 non ci sto. Sono cose troppo delicate, troppo precise, basta un malfunzionamento della nodica, cazzo salta in aria una di quelle valvole, cazzo di crepe degia, quella ti ammazza, quella c'ha un carico allucinante. No, l'intenzione, come sempre, come il prezzo era buono, avevo l'intenzione di prenderlo, metterlo qua, cioè aspettare a momenti migliori, capito? Momenti migliori è solo che il prezzo mi sembrava, per quello che poi il valvole al 100% garantito, mi piace molto da vedere come apparecchio, capito? Mi piaceva molto e infatti voglio chiedere a Claudio come va, siccome è un apparecchio un po' vecchiotto come concezione, è un apparecchio fa un po' di anni, volevo chiedere come andava. Bene, bene, va, bene, ti ripeto, io l'ho avuto, non avevo neanche la patente. Non avevo neanche la patente, qua c'è la foto qua, io ho tutte le foto delle radio che ho avuto, e mi dice, no, è collegato a 940, c'era TL 922, 940, correttore del 940, la colonnina del 940, avevo la linea del 940, sto guardando proprio le foto che sono tutte appese, ottima macchina, ottima, ottima, ottima. E dico ultima perché l'ho avuta, mi ha dato delle grosse soddisfazioni, la usavo però poco in M e molto in banda laterale, capito? Tutto qua va alla grande. Poi l'avevo venduto 2 milioni, lo pagai 4 milioni e 500 mila lire da Mario Nottari, proprio da lui, 4 milioni e mezzo, e l'ho venduto 2 milioni, sempre in lire, ho ancora la ricevuta da chi l'ho venduto, perché ho voluto fargli la ricevuta, capito? Ho venduto un animatore, che è quello di Chiaramonti, che poi mi pare l'abbia versato anche lui per prendere una radio, e io, qualche anno fa, ho comprato la FL 7100 della Yaesu, e poi è arrivato anche la radio, l'FT950 sempre della Yaesu. tutto qua. Già va bene, già va bene. Sì, quello lì, a Mario e dove Mario, che devo chiamare a Mario, cacchio, è un po' che non lo sento, cacchio, è un po' che non lo sento, neanche lo chiami, cacchio, non ho chiesto una cosa. Ascolta, insomma, l'hai ricordato questa cosa qua. Allora, vabbè, ecco qua, allora ho trovato queste antenne qua. Questa è Diamond X50N, antenna base 144 430, questa Diamond X50N, qualcosa ti dice? Ma come c'è Luca la 50, la X50 è quella che io ho fatto a Luca, quella corta, io ho la 510N, che quella lunga va a 5,70 m. Capito? Mentre Antonio gli ho fatto la X300, sempre della Diamond, che dualmente mi sembra che sia 3 metri e qualcosa. C'è la X50 che è la più corta, la X50, poi c'è la X, no, la X30 addirittura c'è, la X30N, poi c'è la X50, la X300, la X510, capito? Io ho la 510, quindi, ma non ti conviene prenderla da internet, la prende Tonino. Non sono della Diamond, sono della Midland, ma sono uguali, costano 35 euro, 40 euro. Così mi dice, ascolta, che tipo di antenna c'ha lui, Tonino, c'ha le Diamond, le Midland, che grandezza? Io gli ho fatto portare, che ne ha venduto un male, tra l'altro io quella che ho sul tetto, la X50, è proprio quella di Tonino, della Midland. Che ho la 510 della Diamond e poi... per il ricevitore, dai, per la radio, anche se non ricevitore, per quella che ho io, ho messo quella lì, la X50, quindi dovrebbe avere la X50, lui e la X300, e mi pare anche la X500, se non le ha finite. A te ti conviene prendere una X50, una delta media, anzi proprio sotto, sotto, senza far scendere non parole niente, ci bisogna metterla in punta, no? Anzi sotto, detto a uomo, a un paio di metri, ecco lì, al palo, sta a palo palo, e via, ecco lì, quella radio già tutta memorizzata, ho tutta memorizzata io, l'ho usata, l'ho provata per vedere se andava bene, perfetto. Ho tutta memorizzata, i punti, tutto, tutti i canali del PD, no? Certo, c'è 100 memorie da una parte, in V è 100 memorie nomi, doppio display, c'è... puoi fare V e V, U e U, o separate, puoi fare un sacco di cose ancora là. E poi c'è anche la M, che è una cosa molto, molto importante per le frequenze aeronautiche, capito? Quindi già l'ha testata Antonio, non mi sono messo a giocare perché poi faccio casino, ho toccato a fare, non mi ricordo quello che ho fatto, ma Antonio già ci ha manovrato. Una X50 ti prendi Fabri, la metti sotto la mantova e quando dobbiamo fare qualche prova ce la andiamo in LPD, non è un problema quello. Dai, faccio così, dai, chiediglielo domani mi informa anche per l'antenna cosa c'ha a Torino, e prendi Grod, aspetta qualcosa, io guardo dietro il divano, per forse c'è già un cavo che mi apri qua, e sì che guardo, perché me ne avevo uno per il dipo, l'altro cazzo ce l'ho per la, c'ho il disco di ascolto, e poi c'ho il 213 per la mantova, però mi sembra che ne avevo anche un'altra calata, però non farne scendere un altro, mica, adesso guardo. E comunque io inizialmente la stavo manovrando pilotando col discone, però non ottieni grossi risultati. Aspetta che ho toccato qualcosa. Cappa, no. Adesso domani metto piatto quella lì e vediamo un attimino come esce, dovrebbe uscire ottimamente. No, è bella perché come radio puoi metterla da qualsiasi parte tu voglia, 5 metri la puoi mettere anche dall'altra, in un'altra stanza, e soprattutto perché c'è tutta questa specie di funzioni e sottomenu che la rendono davvero completa. Tra l'altro spero sia aperta in trasmissione perché acquisisci un attimino di frequenza in più. Mi si è già aperta, l'ho provata io anche, ti ho memorizzato tutte le frequenze che ho io, tutte. ci vuole il WPU con tutti i punti, con i toni di accesso, perché ci sono già memorizzati i toni a 88.8, poi ce n'è a 130, capito? Poi ci andrebbe a rompersi le scatole Fabrizio a stare a mattanarsi l'userbetto. Io l'avevo già pronta, l'ho già provata io e non ha camminato, provato in VAT, in V, in U, da tutte le parti. E guarda cosa ci abbiamo noi, tu. Ho provato il colore, anche, prima verde, poi arancione, no, è nuovo, vai tranquillo. A posto, stavo guardando i cavi, non mi ricordavo. Allora, ho quattro discese dal tetto. Allora, una c'è la Mantova 1, la Sirio 2000, quella della 27. Poi c'è un'altra calata di 213 che lo sto usando per il dipolo. Poi c'è altre due calate, una la sto usando per il discone, come col ricevitore, e l'altro sto utilizzando, ce l'ho collegato, avevo un altro dipolino con un rapporto 9:1 che è buttato lì, e quindi lì c'è ancora il cavo nuovo, appena piazzato, mai usato. Quindi non devo fare niente, devo solo, e c'è anche già il GL saldato, devo solo prenderlo e attaccarlo all'antenna e collegarla, mezz'ora di lavoro. Quell'antenna è già pronta, non devi fare niente, non c'è da piazzare niente, perché è un tubo in PVC in resina plastificato con le tre radialini in acciaio piccolissimi, non farà per montare i radialini, c'è il suo mozzo e l'attacchi, basta, non devi fare altro. All'interno di questo tubo c'è l'asta in rame che congiunge le due polarità e basta, non c'è niente. Guarda, 5 minuti ci vogliono piazzare, proprio 5 minuti l'antenna è già pronta. Prendi quella corta a un elemento, o la X50 o la X30, quella di 100.000 la X300, quella ha due elementi, dopo quella c'è quella a tre elementi come quella che ho io. Che io sapevo che avevi questa intenzione, l'ho data a Mauro, una a Mauro, una a Antonio e una l'ho data a Luca, capito? Se sapevo che c'era questa intenzione l'avrei data anche a te, ma non c'è problema, vai e te ne pareggi tu. No, lo sai che non c'è problema, non c'è problema per così poco, la ditta non trema, capito? La ditta non trema, ma vabbè, scherzo, no, vabbè. Poi questa antenna fa piacere quando ce li hai e fa, come ho fatto io, c'avevo la manto la lì sul tetto, poi la tagli un giro, mi ha fatto solo piacere per tenerla buttata, per quello che costano, poi il giorno che anche a me che mi serve me la ricompro, sono a 30 euro, e sì, e quindi sì, faccio lì, la prendo. Allora, praticamente le misure sono, mi ha detto, dimmi le misure più o meno, non i radialini, quanto sono alte, una, la 1, la 2, la 3 e i prezzi più o meno. La X30 sarà 1 metro di antenna, una cosa del genere, la X30, la X50 perché sia un metro e mezzo, ma non credo neanche, la 50, poi c'è... Addirittura c'è anche la 200, la 200 e la 300, sì, Tonino ce li ha, quindi c'è quella media anche, allora ti conviene prendere quella media, ma se ci vai, gli dici, va, un altro Claudio, quelle antenne che usano i radioamatori, quelle VU, quelle bibanda bianche, tu le dici, che misure c'hai, e lui ti dirà, la piccola, la media, la grande, vedi un po' tu quale prendere, ma le differenze sono poco, ti ripeto, guarda, la grande, tu immaginate che quella della Diamond, la 510, costa poco più di 100 euro, $130, $140 costa, quanto è la Mantova, la più grande che c'è, io penso che la media costi 30-40 euro, non di più, 45 euro. E domani passo, dai, domani passo, sai perché? Perché, e vediamo un po', gli ho chiesto a Tonino, ci hanno i faccio uno squillo se, e poi vediamo un attimino, vediamo cosa c'è lì, se c'è l'acqua quasi quasi la prendo e inizio a piazzarla. Diciamo che anche un'antenna da 3 metri potrebbe andare bene, 5 metri un po' lunga, 3 metri va bene, poi tu considera che mi prendo la scala, tu che non l'hai visto come a casa mia, è molto semplice, prendo la scala, salgo sulla scala che sarà già 2 metri, salgo alla scala, quindi arrivo senza problemi a 3 metri, 3 metri e mezzo, attacco la staffa e ci metto l'antenna e la tiro su senza stare a smontare niente, lavoretto da poco metro. D'accordo, te lo sto dicendo, una coglionata a farla, capito? Sì, poi no, c'ho già il cavo che arriva lì, il lavoro più grosso è scendere il cavo, e c'è lì il cavo già collegato, come trasformatore utilizzo questo che è 30 ampere a voglia, ed è fatto. Sì, perché se ce l'ho io, ce l'hai tu, ce l'ha il grotte, poi se la prende anche qualche due altro, ogni tanto giusto per fare qualcosa di diverso si può anche salire su qualche altra frequenza, no? Quindi se fai un gruppettino va anche meglio. Ehi, ce n'è di gente, te l'ho detto, Antonio, a volte per fare qualche prova, qualcosa, qualche, così, qualche mezz'oretta l'abbiamo passata, capito? Sono le frequenze quelle limitate, consentite, si va lì e si fanno le chiacchiere a 5 watt, non rompe le palle a nessuno, e nessuno ti rompe le palle. A volte sei qua, a moto, a QRM, non sento quello, non sento quell'altro. Lì problemi non ce ne sono, ma poi c'è una radio che ti può servire per fare tante altre cose, capito? Non hai bisogno di usare il ricevitore, perché quella parte da 130 MHz mi pare da 130, sì, dalla banda aeronautica sino a 500 e rotti, quindi non hai problemi in UHF. In VHF mi pare che sia la stessa cosa, abbastanza espansa comunque. Ho capito, sì, faccio così, dai. Faccio uno squillo domani, se ci tratta bene, faccio un pensierino, così prendo anche l'antenna e facciamo tutto, tante piccoline, ci sta, io non ho molto spazio, perché a casa mia non si è mai venuto, ma non, adesso forse riesco a fare due stanze in più su, adesso sto aspettando il geometra, mi dà una voce così, ci porto una stanza per ognuno dei bambini sopra e mi avanza una stanza per farci quello che mi può servire. Però qui lo metto sopra il tempo 440, l'appoggio lì, poco visiva, non dà fastidio, e ci abbiamo anche quella roba, perché il mio problema è di spazio, però non dovrebbe creare problemi, appoggiata sul 440 non dà nessun fastidio. No, ma non è quello, è la possibilità, innanzitutto scende comunque anche più sotto in ricezione per quanto riguarda le bande aeronautiche, perché in AM riesce ad arrivare addirittura a 127-125, che è la cosa chiaramente solo in ricezione in AM, che è il radiofaro di cosa, la torre di controllo di Fertilia. Sono solo esclusivamente in ricezione, però ti fa tutto il resto in AM, però non senti niente perché non c'è niente, superata la banda aeronautica non c'è altro. E poi la cosa bella, la peculiarità positiva è che utilizzi il frontalino staccato fino a 5 metri, quindi tu puoi mettere anche sotto il divano l'apparato e il frontalino proprio attaccarlo lì alla mensolina che hai, perché c'è una specie di staffettina, quindi non c'è bisogno di metterlo sopra, capito? Cioè solamente quello da dove comandi tutto, perché comandi tutto o dal frontalino o direttamente dal mic, dalla saponetta che è in DTMF. Eh sì, quello lo posso mettere anche sotto, sì, anche così, dai. E io mi ricordo che l'ho visto, io ho il problema dello spazio qua, cioè nel senso che sono nella zona giorno dove ci sto e via, e non ho possibilità di avere una stanza tutta appositamente, capito, tutta occupata. Ti ripeto, adesso col piano casa, forse sul terrazzo, sto pensando per il momento di far chiudere un 25 metri quadri, quello che posso fare, il 20% della casa mi sembra posso fare, e quindi intorno al 20-25% riesco a chiudere, quindi magari riesco a fare due stanzette, un bagnetto per i bambini con una scala a chiocciola, che ho lo spazio, quella è l'intenzione, capito? Anche se poi me ne vado, comunque forse è sbagliato non approfittare. anche per un domani, che la vendi meglio la casa, perché diventerebbe sucio il terrazzo, diventerebbe due stanze con la vita è buona, capito? È una cosa del genere, adesso vediamo anche quello, un'altra cosa da mettermi in testa, quindi che non si finisce mai di fare. Per cento comunque 30. No, 30% se fai delle modifiche strutturali dovresti fare la coibentazione di tutto l'appartamento. Facendo, stai modificando strutturalmente comunque la cosa, perché nel momento in cui sopra fai qualcosa, lo stai facendo, stai modificando assolutamente la struttura. No, le pareti, siccome la casa è antecedente, le pareti che danno sulla facciata, che io ne ho, che sono poche, sì, però ne ho lì, dovresti fare una controparete in cartongesso con del materiale isolante per fare il 10% in più. Però non me ne frega niente, con invece dei 20, poi ti allarghi un po', ne fai 25, con 25 metri quadri, due stanze e un bagno le fai senza problemi, capito? Ma tu immagina che una stanza è con 5 metri quadri te ne esci, 5, no, aspetta, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, la sto dicendo, 5 metri quadri, fai un 3x4, 12, 16 metri quadri, dai. Sì, no, vabbè, no, aspetta, tu stai parlando di stanze grandi, 12 metri quadri è una stanza già grande, stanzette per un lettino, una scrivania, un mobiletto, sono circa, oggi guarda se vai sono 7 metri quadri addirittura in appartamento, per capire, 9, 10 metri, intorno ai 9 metri quadri, 3x3, 3x3, 9, c'hai 3x3, 9, c'hai una stanzetta non piccola, un bambino. Ci stava il letto, poi te lo faccio vedere anche a casa, 9 metri quadri, 9, 9, 18, è un bagnetto, già si può fare. 9 metri quadri è un loculo, una stanzetta per un bambino, considerando che il letto almeno è 1,80 m, quindi stiamo parlando di 1,80 m x 92 m, che è il materasso, stiamo parlando di 2 metri quadri già occupati dal materasso. Mettici una scrivania, mettici lo spazio vitale, minimo deve essere 10-12 metri quadri, dai, cazzo, se lo vuoi far muovere, ma mi sembra il minimo. Tu lo sai che io sono militarmente cazzo di bambini, anzi te la faccio 5 metri quadri e voglio anche il contrappello, cazzo, la notte prima di andare a letto. Letti a cartelle ce ne faccio stare tutti e due. Se vuoi ti dare un consiglio, scusa, fagli pagare anche l'affitto. Cazzo, vedi, cazzo, buona idea, ecco a cosa servono gli amici, capito? Buona questa, cazzo, avanti, clamato una buona idea, se tu c'hai qualche altra buona idea, hai ben accetta, Aspetta, sto cercando il manuale, non so se lo stavo leggendo, c'era il mio, poi era il suo, non riesco a trovarlo, aspetta un attimo, riprendete. Ok, già riprendo, comunque 3,20, adesso prendo la misura della camera del bambino che ho qua, no? E poi quando vi te la faccio vedere, non credo che sia molto più grande, adesso non lo ricordo, mentre la camera da letto mia è molto grande, infatti ci voglio fare una camera armadio dentro, volevo fare tagliare per togliere il mobile armadio, volevo fare qualcosa del genere. E vabbè, un po' di cose mi ci va in testa, però poi troppe cose, cacchio, mi ci vorrebbero 24 ore, non dovrei lavorare, grotte. Ma hai sentito cosa ti ho detto? Ci siamo sovramodulati. Ci siamo sovramodulati. Ma che ti mando l'assistente, che ti ho registrato e ti mando l'assistente sociale che vuoi far vivere il bambino e non vuoi metti qua. Allora non ci siamo capiti. Non 9 metri quadri, ho detto che glielo diminuisco a 5-6 metri quadri, metto le taccatelle e li faccio dormire tutti e due. E voglio il contrappello la notte, è cantato come lo facevo nel paracadutistico, se lo facevo, era tutto cantato, contrappello, contrappello, cazzo, era bellissimo, gli faccio vivere le emozioni da giovanotto così. Giorgio, e dopodiché svegliati alle 6 del mattino, a colpi di bidone, di manganello dentro il bidone di Mondetta facendo casino tipo Full Metal Jacket e così a preparare la colazione. Sì, altri Full Metal Jacket, non l'ho fatto io. Allora, tu pensi che stai scherzando col bidone? Io so solo che da mattina a sera stavi tutto il giorno cazzo, facendo più un culo, cazzo, correndo, addestramento, cazzo, non potevi mai camminare, dovevi sempre correre, cazzo, il gradino andava saltato, il culo era sacro, un bel di cazzate, no? Comunque durante il giorno era un addestramento veramente assurdo, cazzo, uscivi morto, lo sai cosa vuol dire? Morto, crepato. Cazzo, quando ti coricavi la notte, alle 2, alle 3 del mattino ti svegliavano di colpo, giù dalle brande, cazzo, tu scendevi, ti mettevi dietro la branda con le braccia dietro, no, cazzo, in riposo formale, cazzo, cazzo, ma non quello normale, quella paracadutista, spaccarti la schiena guardando la lampada, l'unica lampada che c'era al centro della stanza, e ti facevano prendere le mani e te le facevano mettere le mani, voglio vedere le mani, ti facevano mettere le mani davanti, ti facevano stare mezz'ora facendo con le mani farfalline, quel cazzo di mani, non hanno fatto un cazzo in tutto il giorno, mi volete fare le seghe adesso, quelle mani, e ti facevano fare così perché giustamente le mani tutto il giorno non avevano fatto niente, allora ti facevano lavorare 3 del mattino. Cazzo, mentre tu cosa facevi? Cazzo, quindi dopo mezz'ora che avevi giocato con le mani come i bambini scemi, ti coricavi e sentivi subito la sveglia, cazzo, perché ti dovevi preparare, ragazza di vita. E dove l'hai fatto? Pisa. Cosa, nella folgore? Sì, nella folgore. Ma folgore? No, io ho fatto la folgore, però poi sono riuscito a, dopo qualche mese, dopo che ho fatto gli addestramenti, le letture, lì io dovevo rientrare perché io stavo già lavorando, capito? Stavo perdendo un sacco di soldi e soprattutto sono rientrato per un mese, io bastavo un mese dopo e non potevo concorrere a un concorso che ho fatto interno che poi ho anche vinto, capito? Quindi se io rimanevo lì un altro mese in più, cioè io mi avrei bruciato oltre i soldi che non guadagno, ma tu immaginati che mi sarei bloccato almeno per 7-8 anni, 9 anni più o meno, sarei rimasto bloccato con due categorie meno, poi avevo fatto un salto di due categorie, sai che cosa sono i soldi? Moltiplicavo per 9 anni per questo cazzo di paracadutista, capito? Ed ero riuscito a farmi un tronco dell'altra di Ferrafa, ne ho fatto qui malattia puttanate, ne ho fatto 9 mesi solamente, capito? L'avevi chiesto tu però di andare in folgore? Io non me lo ricordo, poi pensandoci sì, perché era volontariato, io ho fatto la visita militare con uno di Sorcio, siamo stati 3 giorni lì e sempre cotti, da mattina a sera, eravamo 3 giorni cotti, mi ricordo che non capivo un cazzo, quando ci abbiamo dato il questionario dove volevamo andare, eravamo ancora cotti, dalla mattina stavamo ridendo, cazzo la torre di Pisa, buona la torre di Pisa, bella, cazzo abbiamo iniziato a mettere croci, e lì sono partito perché io all'italiano avevo già il congedo in mano, no? Ero già nelle liste di riserva, quindi ero già congedato. Infatti quando mi è arrivato, ho detto come cazzo è possibile? Perché ti hanno chiamato, non facevi più parte come volontario, capito? Perché eravamo su fase volontaria. E quindi una cottura andata male è stata, come quello che lei si è arruolato nella legione straniera, capito? Ma il l'accidente è fatto o non è fatto neanche uno? No, lanci non li ho fatti, prima me ne sono andato un po' prima dei lanci, abbiamo fatto le torri, gli avrei appesi ai risimulati con tutti i cosi, capito? Poco prima dei lanci ho avuto, non so se la fortuna, perché da un lato mi dispiaceva, però dall'altro io dovevo rientrare al lavoro, capito? Stavo perdendo troppi soldi, troppe opportunità. Ho dato un faticcio, ho sempre avuto qua questo fatto che non mi sono lanciato. Si può rimediare quando vuoi. Quello sì, infatti non mi dispiacerebbe come una sfida mia personale, capito? Però l'ho fatto io quella vita lì, ho visto uno, non l'altro è morto dopo, una persona a morire, cazzo, sparata lì, cazzo, cose brutte, cazzo, cioè lì era solo da vedere che cosa voleva dire, cioè quando tu hai visto quel film, non so se hai visto con Richard Gere, Ufficiale Gentiluomo. Ho visto Full Metal Jacket. Sì, ma lì partivano in guerra però. Sì, vabbè, Ufficiale Gentiluomo comunque sì, l'ho visto, certo, l'amico che si impicca. Quello lì, cazzo. Cioè quando qualcuno guardava, cazzo, cos'era? quello lì non era niente in confronto a come eravamo noi, ma non sto scherzando, non era niente. Cazzo, cioè quello che ho visto lì era una cosa incredibile. Io i primi due giorni, cioè non dico altro, io mi sono fatto una doccia dopo 5-6 giorni, perché ci hanno fatto addestrare al letto, la prima doccia che ci hanno portato dopo 5-6 giorni, che non ci hanno mai fatto uscire dalla caserma, ci hanno portato, ci hanno fatto prendere gli asciugamani, siamo entrati in lì dentro, cazzo, e ci hanno detto tempo! Tu sei entrata a farti la doccia, a un certo punto ci hanno dato il tempo e non ci hanno detto, quindi la doccia sono uscito ancora, ti hanno chiuso l'acqua, quindi era ancora insaponato, mi sono rivestito, ma con che cosa? Con le calze, con i vestiti che avevo, con la divisa e tutto, calzettoni che avevo da già da 5 giorni, e cazzo in più pieno di sapone, immagini come cazzo ero. Merda, cazzo, per carità. Ocla. Cappa. Visto. Tu invece dove l'hai fatto, Marina, no? Sì, io sono partito a 17 anni, ho fatto l'anticipo leva perché stavo studiando e poi ne ho fatto 22 mesi di Marina, ho fatto 3 mesi alla Spezia e poi tutta la Maddalena alla scuola di sottufficiali. Voi fate vedere le foto. Ero lì alla scuola Cemima, alla scuola Cemima, a questo la sei stata in pensione, coglione, cazzo, per carità, sti ricordi fabbrico non si mettevano tutti in fila, io volevo rimanere, ah me lo vado con Gira Mezzo Carnelli, io volevo rimanere, adesso sarei stato, prima sarei congelato, dopo sono arrivato dalla Spezia, dopo me sono passato sotto capo ed ero lì in armeria, ho fatto tra l'altro anche un corso, non mi ricordo, e poi mi hanno messo al telegrafo, era un ufficio, un telegrafo. Non ci voglio pensare, tutte le volte ci penso, dico ma che coglione che sono stato, già in pensione, tranquillo e sereno, a 2000 euro al mese. E invece riuscivi a combattere, cazzo, per ingraziare il culo a Monti. Lo so, vabbè, io la mia era diversa la situazione perché io ho finito le scuole, avevo subito andato, stavo già lavorando da un anno e mezzo, ero riuscito a fare il rinvio una cazzata e l'altra, quindi a me non conveniva, io avevo già un posto lì tranquillo, sotto casa, come si deve, capito? Quando Enel era Enel, adesso per esempio è cambiato, però erano posti pubblici, quindi io non vedevo l'ora di rientrare. E poi quello che ho visto lì, veramente corpi speciali, io ho sempre capito una cosa, però sono d'accordo che sono così, perché ho capito perché poi in tutte le missioni i primi che partono sono i parà, perché sono persone che comunque, mi ricordo in quel periodo, se ti dicevano ammazza uno andavi a ammazzare, eri fuso, cioè non eri tu. Io quando ho smesso, che poi dopo 7-8 mesi il figlio di un amico, perché avevo anche il figlio, perché comunque avevo questo amico grande tramite mio cognato, e era entrato il figlio, no, era già passato un po' di anni, 2-3 anni forse, era entrato il figlio che aveva appena finito di fare il paracadutista, dove ce l'aveva fatto tutto. Cazzo, ma io lo guardavo lo sguardo, mi ero dimenticato quello sguardo, cazzo, uno sguardo nel vuoto, lui era ancora militare, era ancora, viveva in un altro mondo, perché quando entri da quel corpo, se lo fai, cazzo, seriamente, ci vogliono almeno, penso, 6-7 mesi, un annetto per capire dove sei, per normalizzarti, capito? Scusate un attimo. Rimango in QRX nel caso non dovessi riprendere, ci sentiamo alle prossime, però vi sto ascoltando e che ho da fare un attimino qua e niente, vi ascolto piacevolmente, dai. QRX per me, nel caso QRT in seguito, rientrerò nel caso per dei saluti. A dopo, ciao ciao. Ciao Anto, ciao. Io anche io mi trattengo molto. Fumo una sigaretta e poi anche me vado andando. Ciao, buonanotte. Fabri, ha detto mia moglie che conferma che si è rincoglionito. Direi che si scusi da parte mia, perché ecco, io ero lì con mia cognata e stavo guardando, magari tua moglie stava pensando, ma non so qualche, e io non l'ho riconosciuto, ho detto mi scusi signora, però molto educatamente, perché è nel mio stile, ero educato, ho detto mi scusi signora, io non stavo guardando come il tutto, se c'è una bella ragazza ad uno sguardo, ma sempre, per carità, ci mancherebbe altro, perché forse gli ho anche detto, questi sono i miei bambini, erano lì, quindi con grande gentilezza, come il mio stile, io poi. Però guardavo questa signora e dicevo, cazzo, io questa signora la conosco, infatti ho chiamato la mia cognata, l'ho portata dentro, e ho detto, vieni qua, ho detto, ma la vedi quella signora? Gli ho detto, ma io la conosco, ma tu la conosci? Gli ho detto, io la conosco, mi ha detto, no, mi ha detto, sì, anche io, qualcosa mi ha detto che gli ho detto, io la conosco, che le solite figure che devo aver fatto, ho detto, vabbè, adesso poi quando me l'ha detto ho collegato tutto, adesso se la vedo la riconosco al mille per mille. Perché l'ho inquadrata, perché quando sono convinto di aver fatto una brutta figura, io le inquadro le persone. Fabrizio. No, la cognata la conosce di vita sicuramente, perché va in negozio, capito? Qualche volta è andata lì in negozio. Ecco perché la fisionomia poi è, te la ricordi, no? Di una persona. Infatti quando io arrivato a casa ho visto Fabrizio, quello è venuto qua, però sicuramente non mi ha riconosciuto, perché sì, mi ha così scambiato due frasi, però non mi ha riconosciuto sicuramente, se no mi avrebbe chiesto di te qualcosa, capito? Tutto lì. E vabbè, alla prossima volta paghi a B, beh anda. Che cazzone che sono, cazzo, io, guarda, e ieri io, infatti, io l'ho detto, io ho questo problema, che non sono un fisionomista, ma cazzo, ma io ho fatto due brutte figure ieri, avanti ieri, no, una con tua moglie, perché conoscendo come conosco a te, sono venuto a casa, cioè voglio dire, mi dispiace, no, dice, cazzo, ma guarda quello lì quanto è stronto, cazzo, però io non l'ho riconosciuta, se ti fidi, non vedo mia moglie per una settimana e non la riconosco, immaginati un po', per assurdo, no? E poi ho fatto un'altra brutta figura, ci è avvicinata una ragazza, un'altra, e due che mi ha salutato, una ragazza molto carina, bellina, no? Giovane, forse anche forse con delle più di tua figlia, forse qualche anno in meno, e sta in quel gruppo dove sta tua figlia. E mi ha venuta, e io come l'ho vista, era molto in confidenza. E quindi ho fatto, sicuramente mi conosco, allora ho detto, l'avrò conosciuto in qualche locale, ma che cazzo, allora gli ho dato, mi sono abituato, gli ho dato anche due baci sulla guancia, ciao, come va, gli ho detto, poi io sono un po' filibustiere, filibustano, quando mi rendo conto che non mi ricordo, allora, come stai, come non stai, qui, là, capito, tutte queste cose qua, giusto per non far vedere, era molto in confidenza, e mi sa, anche io, sai, sono qui oggi, non lo devo fare, poi non l'ho fatto, perché mi ha fatto vedere, c'erano i manifesti fuori, vedi, questa sono io, sì, vabbè, ciao, e poi tutto, e poi stavo pensando, tanto l'ho individuata chi era la bagnina che era giù da noi al mare, capito, e da un lato non ho fatto brutte figure, dall'altro un po' sì, perché io rimango un po' su lei, un po', non è che do molta confidenza soprattutto, e noi io in piscina ogni volta salivo la salutavo, ciao, però guardate, lei ragazzina a me come persona grande, io ciao, e lei buongiorno, mi diceva ciao, come va, tutto bene, poi essendo lì in una specie di questo coso tecnico ci hanno messo di questa cosa al mare, quindi mi avvicinava a chiedere come stava andando a fare, gli ho dato qualche consiglio, però capito, un po' più distaccato come tipo di una persona grande, una ragazzina, anche se questa c'aveva un dietro fenomenale, ed era la bagnina migliore che abbia mai visto in assoluto, perché una tedesca, come ha fatto andare la piscina lei quest'anno, in tutti gli anni non l'ho mai visto nemmeno dall'uomo con le palle, aveva una ragazza incredibile, no? A prescindere, quindi avevo molta stima di questa ragazza, però non mi sono mai permesso di dare due bacini, invece lì cazzo l'ho preso questa confidenza come che l'avessi conosciuto in qualche locale, ho fatto cazzo un'altra brutta figura anche oggi, ho fatto. Ma già capita, a volte si sarà pensiero, cioè no, ma Anna si è accorta che già che la conoscevi, capito? Si è accorta che però appunto è venuta a casa, ma già intelligente, tua moglie mi avrà scusato, che avrò maniera di farmi perdonare, che stupido che sono. Ma tu immaginati, guarda, per dirti, ho colleghi che vedo 20 anni, siamo 21, 22 anni siamo lì dentro, quindi colleghi che vedo, detto, ma lo sai che mi capita di vederli fuori, quindi in altri atteggiamenti con la famiglia, ciao, ti fermi, ti farà anche a cazzo, mi fermi, ma che cazzo, e poi ma c'è lui, mica mi viene anche il dubbio se è mio collega o non è mio collega, immaginati che cazzo di punto sono. Ehi, ah, gli ha detto Antonio che sei mezzo fuscio in questo periodo, e vabbè, è carino il fuscio, io stesso sono, in questo periodo sono un po' fuori sintonia, a volte mi parlano al lavoro, ah, cosa hai detto? Senti, ma, cosa vai? L'uomo vuole time a te venendo, e tu dici, no, vai giù i cazzi miei oggi, mi sono stato con la luna di traverso, domani mi trovi buono, oggi sono così, prendimi come sono. Ma a volte non so manco cosa rispondere, mi parla, mi dice, ma cosa c'è, ho problemi, no, c'è proprio da dire, no, non c'è problema. Tanto stiamo andando di lusso, capito? Quindi ti puoi permettere di ridere e fa proprio gazzoni, come si dice in sassarese, proprio bruttare. Non sai se la giornata la termini, come la termini, cosa devi fare, cosa non devi fare, ci comprende un lavoro migliore, non si capisce fare col figlio qua. Adesso il 9 ci abbiamo la riunione che se ne leccheranno le dita i signori, perché alla fine c'è uno scoppio andare avanti così, capite? Ci hanno bloccato tutto, straordinari, chi ne ha più ne mette. Mi sono rotto le palle di lavorare male. Stanno solo pretendendo, Fabri, scusa, stavo mettendo a posto qua. Stanno solo pretendendo, alla fine non si capisce un cazzo. Ma è cosa di tutti, porca puttana, stanno, il problema è che c'è crisi, se non c'è crisi se la creano, la paura, mille problemi, lo so, è così, non, l'altro giorno lo stesso, non so nemmeno che farci uscirci, salgo lì in casa, sono queste due persone che fanno di una ditta appaltatrice, veniva anche male dirgli da cazzo dove veniva, cazzo da gennaio siamo fuori, siamo licenziati, e in 10 persone e in cassa integrazione, cioè cazzo, poi dopo 10 anni che stavano lavorando lì dentro, capito? Con famiglia, e qualcuno, cazzo, ma gente anche grande di 55-56 anni, cioè arruinati, cosa fanno quelli? Fabri, ma non è solo a te, no? Da noi è la stessa cosa, io. E tutti i giorni che le imprese, i lavori, iniziamo un lavoro e lo devi lasciare a metà perché mandi l'ordine di lavoro a Cagliari e non te lo firmano perché non ci sono soldi, oppure chiami l'autospurgo e non ci viene perché deve prendere denaro, le imprese appaltatrici sia della casa madre che la nostra non sono state pagate manco una fattura del 2011, quindi come fai ad andare avanti così? Debiti su debiti, e quindi la gente si è rotta le palle, il cultimo non sta neanche lavorando, tutti quei lavori che sono stati fatti qua a Sassari, di tutti quei casi che sono successi, li ha fatti, gli interventi li hanno fatti gli operai nostri, quindi infatti ci hanno messo cazzo una settimana per trovare la perdita, mentre l'officina turitana in 448 l'avrebbe sistemata immediatamente nella notte stessa, però anche lei non può continuare ad alimentare denaro senza essere pagata. Troppi soldi, non si sa dove stanno andando a finire, non si sa niente. E quindi, vediamo, adesso il 9 ci sarà una svolta, dopodiché noi il problema, quello grazie a Dio non ce n'è, perché cazzo tu, anzi, il problema è diverso, che questi bastardi, che c'è da noi c'è la cosiddetta cooperativa, la chiamano, dove passa tutto per il politico, il produttore, no? Che c'è sto cazzo di, quindi tutti gli appalti passano da lì e lui c'ha questa percentuale. Certo, noi siamo forse gli unici d'Italia che pagano 30 giorni, invece di 60-90, cioè da 90 giorni gli altri vengono pagati gli appalti, noi li paghiamo mi sembra a 30 giorni, a 60 alcuni a 30 giorni, quindi dai 30 ai 60 giorni prima degli altri, puntuali, capito? Immaginati un po' la puntualità. E invece questi qua, a questa povera gente, gli stipendi li paga sempre 2-3 mesi in ritardo, immaginati un po'. No, per quello gli stipendi nostri non ce n'è problema, non ce n'è per niente, figurati. Ma poi puoi chiedere lì a Capolicchia, non c'è problema. Io sono stato da Dio veramente con loro, ho fatto 6 mesi in prestito, facevo dei lavori alla Ginara e mi hanno mandato a me. E sono stato veramente da Dio, veramente molto bene, ben pagato e tanto, i lavori venivano fatti. Non avevo nessun problema, qualsiasi cosa mi servisse, mi ricordo che ero alla Ginara io e lì a Fornelli, quando sono arrivato alle 8, cioè sono arrivato alle 9:30 perché ho preso il traghetto alle 8, siccome c'avevo la macchina in servizio, quindi potevo imbarcare, salire e scendere come volevo. Come sono arrivato a Caraveale subito c'avevo i carabinieri che mi stavano aspettando. Subito però mi hanno visto, hanno detto si muove a scendere a Fornelli perché si sta allagando tutto il piazzale, stanno scendendo il rifle al mare, sta arrivando la forestale. Mentre io arrivo ho visto la situazione, la moto messa a mare, ho chiamato subito in azienda. Hanno prenotato il traghetto solo esclusivamente per la Turritana. Hanno imbarcato un 130 con lo scavatore, la terna, sono partite 3-4-5 persone. In mattinata è stato fatto subito il lavoro, tra l'altro anche coperto tutto, perché lì tutto il cemento, quindi rifatto tutto il massetto, ce ne siamo andati con l'ultimo traghetto delle 7, con le stifo. Per dirti, prova a farlo qua, succede un guasto, non è successo la reperibilità, ho chiamato le dirigenti, non rispondevo al telefono, ho chiamato il numero verde, non rispondevo al telefono, ho scomussato mezzo mondo, nessuno mi ha cagato, di sera, non di notte, no, di sera, capito, di sera, quindi immagini già di due, in che condizioni siamo, ho lo sfascio completamente, Fabri. No, la mia, la multinazionale è sana, no, non ci sono problemi. Chi ha i problemi è la casa madre, che sta creando problemi anche a noi, perché noi seguiamo il rifle, loro seguono le acque bianche, ma non si capisce niente. Non si comprende, lo va a buco migliore, Fabri, è lì il problema. È assurdo, eppure a dire che soldi non entrano, a voglia ce ne entrano soldi, cacchio, capito? È proprio una gestione fatta male, ma c'è qualcosa che non va in Italia, cazzo, c'è proprio qualcosa che non va. Immaginate quando eri Endesa, io ero Privesa, la mia stessa multinazionale spagnola, una era Endesa e gestiva la parte tua e la Privesa gestiva tutto il sistema idrico in Sardegna. Poi anche lì gli hanno fatto un buco di non so di quanti miliardi e quindi ha mollato. Dopo mi pare un anno ha cambiato denominazione sociale, da Privesa adesso si chiama Acciona, ma è sempre la stessa società, quindi tra l'altro ha delle quote anche molto alte nell'Enel Acciona. E poi c'è il sistema delle pale Green Power, quello lo stesso Green Power è quello di Acciona. Sì, lo so, la conosco bene, abbiamo avuto Acciona, c'è tutta la storia. Cazzo, andiamo a finire, non so proprio, cazzo, si stanno mangiando tutto, dove vai, senti la gente scontenta, tutto gestito male, non si riesce a capire, cazzo, cioè sembra che ci sia un progetto per mandare tutto a puttana, anche le cose che erano in attivo, che andavano bene, cazzo, non va bene, cambiano le regole da un giorno all'altro. Io sto smettendo di capire, capito? Perché è un po' come quella canzone che parla della Sardegna, no? Che dice che è una terra bellissima, che dalle nuvole vedi tutto e vedi questi uomini, che è una terra che potrebbe praticamente andare da solo, ma ci sono gli uomini che fanno l'impossibile perché questo non avvenga, e sembra che anche nel mondo del lavoro stiano facendo queste cose qua, soprattutto in posti dove lavorano con l'acqua, con la corrente, cioè con cose che gli incassi li devi fare per forza, capito? Vabbè, pazienza Fabri, ok, dai, chiudo, se no ne torniamo a Correa. Io domani sono libero, se sei in giro, io domani mattina scendo la Mercedes, che devo fare, ritirare sicuramente il libretto della macchina nuova e poi qualche commissione possa essere, ma molto velocemente, quindi se ti fai sentire ci prendiamo un caffè, ho detto anche Antonio, poi se devi andare a CBC magari andiamo assieme, non c'è problema, ok Fabri? Va bene, dai, no, io sì, dai, se ce la fate, io domani mattina alle 9 devo andare a prendere, mio zio, dobbiamo fare questo lavoro in garage, se non mi porta via molto tempo, al limite metà mattina inoltrata ci sentiamo per telefono e magari ci beviamo un caffè o un aperitivo, dai, se ce la faccio volentieri, molto volentieri se ce la faccio, se mi libero da questo impegno, spero di non metterci cazzo tutta la mattina, spero proprio di no, capito? E quindi al limite ci sentiamo, dai. Ah, tu senti quello là e poi mi fai sapere, dai. Comunque in ogni caso ci sentiamo domani. Ok, buonanotte, cra, fermo il pisulino che anch'io spengo, come al solito mi stordisco un po' sul divano io. Ehi, anch'io non ho mica il coso, guardo un po' di TV e poi me ne vado a andare. Dai, ci aggiorniamo domani Fabri, ciao, buonanotte, grazie delle tue chiacchiere. Ciao anche ad Antonio Grotte, buonanotte, eventuali SW dell'ascolto, ciao, buonanotte a tutti. Ok, dai, buonanotte anche a te, buonanotte Grotte, ti stai ascoltando, buonanotte Claudia, ci sentiamo, due chiacchiere con te fa sempre piacere, dai, alle prossime, ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte, grazie.